nostro malvagio, diciamo, Claudio. Comunque sta segnando di Sebastiano. Ciao, ciao Claudio. È la tua ore che stiamo chiamando. C'ho sto baracchino che praticamente si sposta di un canale, quindi stavo cercando di capire dove cacchio stavo andando. Perché passa il segnale? Vediamo. Così, anche così è basso, così sono 5 watt, via, 6 watt. Basso, per te è basso, sono più 5 aperti. Cercando di capire, questo è un Airbex 4082, sto cercando di capire i canali, non ho più preso un accidente, c'è una modifica, non ci ho capito un accidente, vabbè. Vabbè, allora, vuol dire che se non conosci la posizione del canale, se c'è la modifica, bisogna vedere se corrispondono ai canali suoi in realtà. Vabbè, dai. Una volta uno, qualcuno, Lampazio, io ti dico, dallo a me, che è un po' diverso. No, c'è bene, no, un attimo un dettaglio, Giulio, sono nuovi, nuovi, sono tutti baracchini che hanno dentro l'armadio, ma non so che cosa fare, mi siedo qua e mi metto a provarli, capito, ma senza, così, mi metto le cuffie, non c'è bisogno di chiedere niente. Non ti ho sentito, ma c'avevo le cuffie e poi stavo cercando il canale, no, c'è questa, una modifica di X-Lock che praticamente ti sposta di canale, capito? C'è una modifica canale sotto e canale sopra e volevo capire se era questo di X-Lock oppure NB-Off, invece è l'NB-Off che è messo al centro, cambia canale da sotto a sopra, no, non c'è altro, ha le bande laterali e non c'ha l'FM, non gli ho preso il valore, il carraio non c'ha l'FM, è un Airbex 4082 di vecchia concezione, va bene, sto usando il microfono normale, e c'è anche molto bene. Sì, la radio è bellissima, la radio è ottima, sembra la il K, sembra come radio. Vabbè, se è un baracchino, è ovvio, e poi se ha diverse possibilità di potenza, va bene. No, ma io volevo il segnale di Franco, o di Gianni della stazione, poc'anzi, per quello che io facevo i mononumi, se sei Gianni oppure Franco, capito? E questo è il problema. No, scusa, ma non ti ho sentito. No, io ho due microfoni. Questo è quello suo. Lo vuoi sentire l'altro a vedere se va meglio, se è uguale, dai. Me lo concedi un minuto, solo questa prova e poi lasciamo perdere, ci mettiamo a chiacchierare. Giusto per capire che microfono posso usare. Sì, nessun problema, figurati. Sì, va bene qua, non fai le prove che vuoi, il problema non ce ne sono. Comunque questa è una radio bellissima, molto, molto, ma molto bella, veramente. Non so che microfono è, però è molto, ma molto bella, veramente. Non è fastidiosa in quanto a volume, insomma è proprio una radio che è proprio l'ideale per poter fare queste o per un paio d'ore, o anche 3 ore o 4. Aspetta, quello non c'erano né bip né niente. Adesso questo invece è l'MB più 5. Cosa dici? Meglio quello là o questo? Ma devo dire che si equivalgono quasi. Questo è un pochino più, ha più toni alti. Però è bellissima anche questa la radio, no, problemi non ce ne sono. Ecco la piccola differenza, ad esempio, che c'è dall'MB più 4 all'MB più 5. L'MB più 5 avendo i toni e puoi aumentare o abbassare i bassi o mettere gli alti. dunque, questo, in questo passaggio è leggermente, ma è una cosa proprio di poco, con i toni più alti rispetto a quell'altra, però quell'altra era una modulazione secondo me ancora più apprezzabile per i miei gusti, poi ognuno ha i suoi. Se sei qua è per... adesso ho abbassato la potenza in modo che non ci sia fastidio di qualche rientro. No, beh, te l'ho chiesto perché il parere di un orecchio esperto come il tuo non è che puoi dire no, non va bene o no, quello che dice Giulio non è così. Non sai che noi controlli ce li scambiamo, soprattutto di radio, io non chiedo mai altro. Però quando provo un microfono mi interessa sempre avere quella massima modulazione che mi consente di essere sempre io, ecco, perché cambiare non mi fa. Quindi questo è il più 5, tu mi dicevi c'hai i toni. Allora il tono è a 2, se io il tono lo tolgo del tutto, così è a 0 e così ce l'ho a metà. È meglio così o com'era prima? Ma se vuoi dire la verità, questi passaggi che hai fatto non ha cambiato niente, perlomeno io non ho notato differenze. Però ripeto, la radio è bellissima, non bella, di più di bella, per cui va benissimo, sia in un modo che nell'altro, sia con il primo microfono che questo secondo che stai usando adesso. Sono straordinari tutti e due, c'è pochissima differenza tra l'uno e l'altro. Però se, diciamo che è una questione soggettiva più che altro di chi ascolta. C'è anche da dire questo, se io dovessi usare ad esempio questi due microfoni che tu hai usato adesso, sicuramente a me mi si addice di più il primo. Perché? Perché io nella mia voce ho più toni alti che toni bassi, per cui probabilmente mi andrebbe meglio il primo, che ha una modulazione un pochino più con più toni bassi. Vi sono spiegato qua? Sì, mi si è spiegato perfettamente, ci mancherebbe altro, ottimo. Quindi questa c'ha più toni acuti rispetto all'altra. Io praticamente chiudo così, vedi? Così sto mettendo il tono a 3 e non mi piatti. Mentre se invece lo chiudo così in questa maniera, a 1, e lascio il microfono in questa maniera, così, secondo te si equivale a quella di prima? No, perché come timbrica ha sempre un qualcosino di più di toni alti rispetto all'altro microfono. Ecco qual è il senso. Però adesso nel passaggio che hai fatto da 3 a 1 la differenza si è notata. Sì, altro che se si è notata. E devo dire che a 3 sembra strano, ma a 3 io la sento meglio di quando l'hai messa a 1, nonostante che mettendola a 3 ci dovrebbero essere più toni alti. Però come modulazione, come radio, come timbre del radio, era migliore di quando l'hai messa a 1. Strano, perché di solito quando aumenti dovrebbe diventare più forte come con i toni alti. In effetti diventa più alto i toni, però è anche più chiara, più scandisce meglio la parola. Ah, ecco, no, ma attento, che l'MB più 5 praticamente chiude i toni, vedi, adesso io ce l'ho a 1, no? Se io vado a salire, guarda, stai attento, vedi, ti toglie gli acuti, vedi, io vado a salire, e ti toglie gli acuti, vedi, non è al contrario, non so se è così, se nasce così sto cacchio di microfono, non lo so, e quindi la praticamente la percentuale che io posso avere è tra l'1 e il 2, che è questa. Però la mia domanda, sincero, senza avere pelle alla lingua, sincero, ti piace più la modulazione iniziale che avevo o questa? Ma devo dire che non saprei chi scegliere, visto e considerato, anche perché a questo punto, se tu magari me li fai sentire domani, o meglio se io ti ascolto domani, non riesco nemmeno a sentire la differenza tra l'uno e l'altro microfono, e anche tra l'uno e l'altro passaggio, perché è talmente poca la differenza che è quasi impossibile se proprio non l'hai sentita al momento. Appunto è quello che ti dicevo nel passaggio precedente, è strano, perché quando tu aumenti dovrebbe non essersi toni più alti, invece io ho notato, secondo il mio orecchio, che quando l'hai messo a 3 anziché a 1, anziché diventare toni più alti, c'erano toni leggermente più bassi, più cupi, in poche parole, però di una intelligibilità straordinaria, che nemmeno alla radio, alla radio Monte Carlo è così, per intenderci. Sempre parlando di questo microfono, non dell'altro, sempre di questo? Sì, sì, sempre parlando di questo, che è fatto da prova appunto con i tuni. L'altro, vabbè, l'altro è rispetto per me sempre, rispetto, ma il mio giudizio è sempre soggettivo rispetto ad un'altra persona, perché un'altra persona può apprezzare più questo che l'altro. Però per me il primo microfono era leggermente migliore, ma questo, questo di adesso, non ha niente, ma proprio niente da invidiare al primo. Ok, allora io adesso ne metto l'altro microfono suo, così siamo, siamo a posto. Aspetta. Eccolo qua, questo è l'altro microfono, come dice qualcuno. Il rumore che sente l'autoscala, io me ne sono salito prima, sta facendo manovra per domani. Va bene. Giulio, ha giudicato, lasciamo questo, vedo di fare. No, puoi usare anche l'altro quando vuoi, ci mancherebbe altro, figurati. Ripeto, sono sempre giudizi soggettivi, perché, ripeto, a me questo mi piace di più, perché ha una timbrica un pochino più verso l'amplificazione, non so come spiegarlo. Ha una, come dire, quando ad esempio, ecco, tanto per fare un esempio, no? Se noi ascoltiamo della musica, tanto per fare un esempio, ci sono nel radio, perlomeno lo stereo mio è così, che ci sono i toni jazz, i toni rock, i toni normali, i toni e così via. Ecco, questo è il tono più rock, che è quello che io apprezzo di più. Mi sono spiegato? Sappiamo benissimo che la musica ascoltata con i toni rock è senz'altro non solo da parte mia, per quanto ne so io, ma anche da parte della maggioranza delle persone, la preferiscono ascoltarla in quel modo, soprattutto considerando i giovani, soprattutto quelli che vanno la Guliana in capo, tu avrai sentito tante volte questi giovani che vanno in giro per le strade con questa radio a tutto volume, ma quello lì è solo chiasso per conto mio, ma questo è di una intelligibilità straordinaria, così com'è. Sì, sì, anche a me non piace, io odio queste persone che in macchina stanno con questo un piccaburotto, non capisco come cacchio facciano a guidare. No, no, no, no, va bene Giulio. Ottimo per la truppa, ti dirò che ce l'ho a 1, così l'ho messo a 2, guarda, ecco. Così l'ho messo a 2 e penso che, mi sto ascoltando in cuffie, hai veramente ragione, una bellissima modulazione, bella, corposa, non è fastidiosa, è bella, bella, bella. È perfetta, qua, è perfetta. Io non penso che al baracchino si possano sentire modulazioni migliori, devo dire questo. È perfetta, veramente perfetta, perché non è stancante, non è fastidiosa, si ascolta benissimo senza il minimo sforzo, anche se ti metti a distanza dalla radio ad ascoltarla, tutte queste belle cose qua. Insomma, ha tutti i pregi inimmaginabili della modulazione come, per come deve essere. Ripeto, ma è sempre un giudizio soggettivo. A me piace così. Provo un po' a chiedere agli altri quando entrano, non so se hanno le mie stesse valutazioni, e dunque poi si sa, come ti ho detto, è soggettivo. No, non devo chiedere niente a nessuno, io quando ho già un controllo valido di una persona che ha esperienza non mi interessa stare lì a chiedere, perché ti ripeto, l'importante tu lo sai, ne abbiamo sempre parlato negli anni, è importante arrivare 5 di radio e 1 di segnale, però l'importante è che la gente ti ascolti, e per me è stato sempre importante curare molto la modulazione, tu lo sai, quindi a prescindere che guarda, io ne ho 6 di microfoni, che sono più 4, più 5, più 3 l'SBR. Io è un paio d'ore che sono così nei canali bassi facendomi queste prove in cuffia. Ma è possibile che non ci sia un microfono sbagliato per la mia modulazione? È incredibile davvero da dire, ma non perché becco di presunzione, ma perché è una realtà, è veramente una realtà. Quando lo dicono io a volte non ci credo. Ma su 6 microfoni, porca miseria, ce ne sia uno che vada male? Assolutamente no. No, infatti quello lì è nella tua natura, la timbrica che hai tu, si addice a tutti i microfoni, eccetto quel microfono che stavi usando l'altro giorno con quella radio da 100 watt, 200 watt o quanto era, che era talmente forte che era anche compressa la modulazione. Non lo so, poi se avevi qualcosina anche extra attaccato, questo non lo so. Cioè, solo quella modulazione per me, a me non piace, ripeto, era fortissima, sai cosa vuol dire forte? Forte in una maniera impressionante, però era anche molto ma molto cupa, e cioè anche sul nasale, era un cupo nasale, che quello non mi piaceva proprio per niente. Per adesso che io ascolto poi tutto e ci manca altro, io le modulazioni che sento le ascolto e le ho preso ugualmente, tanto io non è che devo valutare la modulazione, devo valutare la qualità della persona e soprattutto la serietà, eccetera. Poi tutto il resto, se mi arriva fridolo o se mi arriva cupo, è interessante che lo sente e che lo capisca, questo è un altro discorso. Però visto e considerate che oggi stiamo parlando di microfoni, questo è l'ideale, non ha niente da invidiare all'MC70 o addirittura all'MC85. Molto bene, ok, sì. Oh, beh, quello no, quello è un Cobra, penso che non ce l'abbia nessuno a Sassari, non è il mio, è di Massimiliano che mi ha portato una scatola di baracchini suoi da conservare perché serve, sta facendo i lavori. La prima cosa che mi ha detto, usa ogni tanto il Cobra, gli altri non mi interessa, tanto sono tutti quelli modificati, quindi non li uso. Però ogni tanto il Cobra lo accendo perché è una radio che costa una barca di quattrini, ed è il Cobra, quello, il GTX DOS, una cosa del genere. Praticamente c'ha un B300 sotto la pancia, capito? Sotto la pancia della radio c'è un amplificatore lineare attaccato, ed è la versione GTX 200D, praticamente la versione da 200 watt, e lì là è, io l'ho provato in banda laterale, 180 watt da banda laterale, e in AM da sui 90-95 modulati passa anche i 100, è per quello che mi sentivi così, capito? Lo stavo provando proprio al massimo, ed è una bellissima radio questa, ed è dentro la scatola che custodisco qua in stanza, che di Massimiliano, appena terminati i lavori, penso la prossima settimana venga a prendersi. No, questo è il mio, questo è un Airbox di vecchia data, e basta. Poi ce ne ho un altro, il 87, e l'altro quello omologato. Va bene. Ok, quindi, ha giudicato questo corso. Infatti sono 8, 10 modulati, e sono più che sufficienti per fare due chiacchiere. Ok, quindi mando le ciance, di Francesco esonerato, la Roma fuori dalla mezza ai piedi, ma tocca a noi. Mamma mia, chissà che riusciamo a superarli, lo sa. Se volevo aggiungere anche, premesso che la modulazione di Massimiliano mi piace moltissimo, ma veramente molto, perché anche quella è una bellissima modulazione, all'infuori di quando usa l'elicottero. Quando usa l'elicottero non lo so, però io odio queste modulazioni così spinte a forza in maniera snaturata. Io li considero modulazioni snaturate quelle lì, perché in realtà è snaturata, perché se tu gli fai una modifica, un apparecchio che poi gli aumenti la modulazione o gli metti l'elicottero o gli metti una potenza che è spropositata al circuito per cui è stato costruito, premesso che può piacere, non piacere, che è forte, tutto, siamo d'accordo in tutto, però per me è una modulazione ragione snaturata, non mediante. Però quando Massimiliano utilizza la sua radio, come ad esempio quella che ha utilizzato quando a Matias ci siamo sentiti, mi sembra, quella che aveva sulla sedia, come diceva lui, è per me una lavorazione straordinaria, bellissima, ma veramente bella, che è quasi simile alla tua come timbrica, con la differenza che tu hai un po' più di acuti, lui invece ne ha un po' di meno, ma sono talmente intelligibili le sue frasi, le sue narrazioni, che sono veramente apprezzabilissime nella maniera più idonea di questo mondo. Mi sono spiegato? Sì, perfettamente, non ci sono problemi. Beh, lui c'ha quelle radio lì che usa solo esclusivamente quando mi pare va nel canale 45. Non l'ho mai. Qualche volta così si mette a fare qualche passaggio con quello toglie. Ma c'ha quelle radio, c'ha le S9, è bellissimo, c'ha quel Cobra, c'ha il iPhone Blue, c'ha il 8001 e ne ha una scatola piena. Tutte modificate ad alto livello, vanno molto molto bene. Vabbè, lì bisogna chiaramente usare quelle radio in una maniera diversa, ma per fare questo è chiaro che non mi puoi mantenere se vedo un chisso casino, sicuramente no. Vabbè, sì, l'ho sentito poco fa io, stavo leggendo su Sky Sport 24, la roba esonerato di Francesco, arriva Ranieri, penso però che sia un gioco un po' così, perché poteva anche fare fine del campionato. Intanto penso che a quei livelli lì, come si trova oggi, nelle circostanze in cui si trova la Roma, penso che Ranieri Miracoli non possa fare. Lui dice che dicono che la Roma sta puntando alla Champions per il prossimo anno, ma sarà. Secondo me non riesce a prendere né l'Inter né il Milan. Vabbè, vediamo. Adesso stasera c'è Juventus Udinese, l'hai vista la formazione? Sì, non gioca nessuno, Turnover, proprio da turnover. Sì, lo so. E vabbè, vediamo un po'. Vediamo bene. Solo una cosa mi dispiacerebbe se perdesse la cosa del turnover. Ma speriamo di no. Un pareggio lo potrei anche accettare, però una sconfitta, visto considerato che grazie a Dio ancora non ha perso in tutto il campionato, non accetterei, per vari motivi. Innanzitutto perché sei in casa giocando, primo. Secondo perché sarebbe assurdo venire battuti dall'Udinese. Ma premesso che anche l'Udinese merita rispetto, perché il rispetto bisogna darne per tutti e per tutto. Per cui non. Questa è fuori discussione. Però, guarda, se mi si considera se serve questo risparmio di energie per martedì prossimo, speriamo che serva. Io me lo auguro di vero cuore, anche perché è una vergogna che noi riusciamo ad arrivare in finale 4 volte, 2 volte ci siamo arrivati vicinissimi alla vittoria finale e poi invece o per un motivo o per un altro siamo stati eliminati. Vabbè, pazienza, si sa, è una lotteria e quando si arriva lì in finale è una lotteria, è come le regole, o vinti o perdi, se il fuori è buono, cosa che secondo me la finale si dovrebbe fare sempre con la doppia partita, magari eliminare qualche partita pre-campionato, tipo che so io i sedicesimi, per quale motivo mi fai fare due partite, va una e basta, che va avanti, ma è una questione di soldi o probabilmente è quello. Sì, ma anche secondo me sono d'accordissimo. Beh, in conferenza stampa lui ha dichiarato che è doveroso fare questo turnover, anche rischiando di poter perdere la partita. È doveroso per il semplice fatto che Ronaldo deve riposare, deve essere in forma netta contro l'Atletico, Bonucci e Chiellini la stessa cosa, non può rischiare perché lo sai in difesa che noi abbiamo, gli gioca Rugani con Cáceres, poi c'è Cancelo che mi fare squalificato, Pjanic che è squalificato, quindi al centrocampo ci sarà Bentancur con Emerchan. Comunque vediamo, in attacco dovrebbe esserci Ken con Dybala e Mandžukić, forse. Può darsi pure anche che c'è già a disposizione Douglas Costa, quindi può darsi pure anche che ci sia qualche spazietto per lui, però ha dichiarato che è obbligatorio poter fare questo turnover, altrimenti si arriva contro l'Atletico che la squadra non è in forma, capito? Sono comunque tutti a disposizione, sono tutti in panchina. In caso dovesse succedere qualcosa, è chiaro che qualcuno di loro entrerà sicuramente. Certo, quello sì. Poi è stata una vigliaccata nei confronti di Francesco e io, tornando al discorso un attimino per la Roma, per me hanno fatto una vigliaccata grande, che è una società seria, come ritengo che sia la Roma, non doveva assolutamente mandare via Di Francesco, perché prima di tutto perché Ranieri in questi 2-3 mesi di campionato che rimangono non è che può fare miracoli. Ecco, intanto, primo. Secondo, Di Francesco non se lo merita, perché Di Francesco ha dimostrato che è un bravissimo allenatore. È la società che ha rovinato la squadra della Roma e soprattutto tra virgolette sta rovinando il nome di Di Francesco, perché se la Roma non avesse venduto i giocatori che si è venduto l'anno scorso, o meglio prima di questo campionato, probabilmente avrebbe votato benissimo per la Champions anche per il prossimo anno. E invece sta andando in malora, sta andando che il prossimo anno sicuramente non la potrà fare, salvo ripeto, o caro o proprio madonnale delle altre squadre che ci sono avanti, ma ho la sensazione che le altre squadre stiano sempre migliorando, a differenza della Roma che non ha quella possibilità, secondo me, soprattutto quando c'è l'Atalanta, perché l'Atalanta è in grandissima forma. E Sugar, l'Atalanta è una cosa pazzesca da vedere. Adesso mi sono veramente reso conto, quando ho giocato contro la Juve, che era nettamente superiore, perché è una squadra che corre e gioca. Capita se gioca, altro che gioca con cuore proprio, con la massima impegno, ma veramente. Poi, Di Francesco, la Roma si è dimesso anche quel Monchi, quel dirigente, eccetera eccetera, anche a lui le vogliono attribuire le colpe, però si sa, ha fatto lui la campagna acquisti, d'accordo, ha fatto anche la campagna vendita, e per quello della Roma probabilmente si è reso conto che è sbagliato, allora si è dimesso lui direttamente, per così per far andare sempre più il malore alla Roma, ecco come No, perché si è dimesso? Ma cos'era? Il direttore sportivo? Era quello che amministrava la Roma praticamente, quello che faceva la campagna acquisti, il mercato, insomma. Si vede che si è reso conto che aver dato ad esempio Nainggolan, aver dato via l'altro giocatore, che non mi ricordo nemmeno come si chiama adesso più, ha fatto degli errori madornali, poi ha comprato dei giocatori che non sono riusciti a fare niente di buono, compreso anche Schick lo stesso, l'hanno comprato tutto quello che vuoi, il primo anno questo Schick sembrava formidabile, adesso a parte il discorso che ha fatto una bella partita l'altro giorno eccetera, d'accordo, ma è quella partita che ha fatto bene, poi tutto il resto, tutte le volte che è stato impiegato, che è stato messo a giocare, non ha fatto niente di trascendentale, ha fatto né più né meno una partita così, appena sufficiente in qualche partita e in altre magari nemmeno la sufficienza si è meritato. Non vedo, mi dice Schick, la cosa non mi dice assolutamente niente, non è uno che praticamente ha fatto vedere niente di particolare. Non so, la Roma, inizialmente all'inizio campionato la Roma stava giocando molto bene, ha dato tanto, voleva sfondare forse, ma poi non ce l'ha fatta. Attenzione, Di Francesco, il Sassuolo, caspita, l'ha portato a grandi livelli, ha un grande gioco anche il Sassuolo, quindi non è un allenatore che non viaggia. Di Francesco è un bravissimo allenatore, altro che, naturalmente deve essere anche supportato dalla squadra, se non è la squadra, miracoli l'allenatore da solo non lo può fare, però come intenditore di calcio Di Francesco è veramente in gamba, è un giocatore, è un allenatore moderno, che intanto va molto d'accordo con i suoi giocatori stesso, non si sono sentite mai polemiche, ma nemmeno con Sassuolo, anzi il Sassuolo ha messo su veramente bene, perché sappiamo benissimo che il Sassuolo è stato sempre una squadra praticamente improntata per la retrocessione, invece lui l'ha saputa tenere proprio bene, addirittura la media classifica, e non è poco, anzi più di media classifica anche, e non è poco, tutto questo è merito dell'allenatore, perché se noi dovessimo parlare dei giocatori che aveva il Sassuolo quando c'era Di Francesco, chi c'era il bravo? Solo Coso, Pensate avanti, e poi l'altro, che poi l'altro l'avevano venduto, ma gli altri sono normalissimi giocatori, ma lui li ha saputi mettere bene insieme, che facevano un gran bel gioco, e ancora oggi il Sassuolo è l'ultima squadra a rispettare, ecco che... Glielo da rispettare, ho visto già un bellissimo gioco, e Berardi c'è che gioca anche in nazionale, c'è anche Petagna, no? Lui è con l'Atalanta, gioca, se non ricordo. Ecco il Berardi, appunto ero con il Berardi, no, ma c'era un altro, non mi ricordo come si chiama, c'era un altro forse, lo stesso, che l'hanno venduto, però quando c'era il Francesco no, ce l'aveva lui, ce l'aveva in forza. Come si chiama, guarda che fa molto, è un gran bel giocatore, è stato venduto, adesso non mi ricordo come si chiama, non me lo ricordo, vabbè, dopo se mi viene io te lo dico, è per dire, no, però Di Francesco ha saputo dare una bella impronta da solo, altro che, io penso che con i giocatori adeguati avrebbe fatto una bellissima Roma, invece gli hanno comprato un sacco di giocatori, ha comprato questa Roma, ma se li metti tutti insieme non raggiungo la sufficienza di uno solamente, così per dire, ne ha un sacco di giocatori, però niente da fare, infatti se li vuole vendere tutti adesso. Io continuo a ribadire il fatto Juventus, già, le dichiarazioni sono già state fatte, penso che finisca il campionato, poi va via, però si parla di Zidane, ma potrebbe arrivare anche qualche altro allenatore da Furia. Io penso che anche di Guardiola, si parla anche oggi, si parla abbastanza di Guardiola, e Guardiola un allenatore, tanto che costa molto, ma non è vero, mi sembra che vende, che guadagna 25 milioni l'anno, e non lo so se la Juventus lo pagherebbe un allenatore con quello stipendio così, per dire, però Guardiola è un grandissimo giocatore, un grandissimo allenatore, uno dei migliori al mondo, se non addirittura il migliore, però non mi dispiacerebbe nemmeno Zidane, a me Zidane non mi dispiacerebbe, primo perché Juventino ha camicia, primo. Secondo perché ha un'esperienza internazionale non indifferente, visto considerato che ha vinto gli ultimi tre di seguito, così, come ha fatto bene con la Coppa Italia, lui l'ha fatto con la Cempio, che c'è un pochino di differenza, però è successo, va bene. Sì, d'accordo, supportato anche dalla squadra che aveva, eccetera, eccetera. Mi sono fatto di essere mancato a Ronaldo, a Real Madrid, ha fatto 50 gol l'anno, per dire, no? E nonostante tutto, anche Modric, che non è l'ultimo arrivato, che è parola loro di quest'anno, tra l'altro, che anche lui lo sa, che Ronaldo avrebbe meritato più di lui anche quest'anno, rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso Ronaldo, non rispetto a questo di quest'anno, ma a quello che ha fatto l'anno scorso, ad esempio 15 gol in 100, tanto per dire una, e 50 gol in tutto l'anno, non è poco, oltre al fatto che aveva vinto anche la Champions. Per dire, anche molti ci ha detto Ronaldo, c'è, manca Ronaldo, purtroppo non c'è Ronaldo, e dunque i 50 gol non ho visto più quelli fatti e segnati da Ronaldo. Ma infatti matematicamente ha provato e visto, non c'è niente da fare. Si è visto, perché un Real Madrid che si perde a quei livelli con un Ajax 4-1 vogliamo fare contro il Real Madrid. L'altra novità è il Paris Saint-Germain, cioè stanno uscendo veramente grandi squadre dalla Champions. Quindi non mi meraviglio Giulio, col punto interrogativo, che possa uscire anche la Juventus, visto che è la squadra più forte in Italia. Non lo so che cosa sta succedendo nel calcio, però ci sono questi giocatori che alla fine prendi Ronaldo, prendi, non so, quelli sono, siete elencati, quelli del Real Madrid che hanno fatto la storia, e quando poi manca uno il gioco è completamente diverso. Vedi quello che è successo a noi in Coppa Italia, manca la difesa, che è il perno, con un Cecchiellini della difesa, che se ne possa dire a chiunque, e vedi bene che lì inizi a prendere colpi. E io sono preoccupato per oggi, anche se purtroppo è un rischio che bisogna correre, perché vabbè, i punti sono 16 dal Napoli, quindi potrebbe non cambiare niente, però la mia paura è che si potrebbe appunto prendere qualche gol a causa della difesa oggi. Beh, appunto, è quello che ho sempre pensato io, ma è possibile, ragazzi, tanto che adesso stiamo parlando già da roba di 4-5 anni, non è un giorno, 4-5 anni, praticamente da quando non c'è più Pogba, ad esempio, da quando non c'è più Pirlo, da quando non c'è più Marchisio, questi erano i nomi di centrocampo, i più forti che la Juve aveva, ma è possibile che la Juve, ragazzi, con tutte le sue possibilità e con tutte le capacità che hanno di gestione, sia da parte di Paratici e anche da parte di Marotta, che si va l'altro giorno nella Cova Juve, non siano mai riusciti a rimpiazzare il centrocampo che aveva prima. Ma non stiamo parlando di un anno o due anni, stiamo parlando, grazie a, di un sacco di anni. Insomma, a questo punto mi fa anche capire che sono bravi, ma non puoi così più di tanto, perché lo sappiamo benissimo che il motore di una squadra di calcio è sempre stato il centrocampo, perché non mi dimenticherò mai di quel campionato che la Juventus aveva fatto negli anni 80, mi sembra che era, no? Che aveva preso una spinta di giocatori nuovi proprio per riformare la squadra. A un certo punto cosa è successo? Si aveva mantenuto gli uomini cardine del centrocampo, si aveva mantenuto. Beh, proprio quell'anno che la Juventus doveva essere costruita per essere una squadra di terzo, quarto, quinto posto e forse anche di meno del quinto posto, è riuscita a vincere il campionato perché aveva una mediana straordinaria. Invece trovo i 5 anni non sono riusciti a riformare una mediana come si deve a livello internazionale, come quella che merita la Juve. Mi stai dicendo niente tu. Mi stai dicendo niente, caro Giulio. Purtroppo è così, non è che si può raccontare il falso, è la realtà. Ma è la domanda, faccio una domanda. Potresti essere così, come si dice? Saresti contento tu se arrivassi nuovamente Conte? Ma devo dire, a parte le belle interne che ci sono state, eccetera, eccetera, però io sono sempre per l'idea che nella vita è inutile tenere dell'azio nei confronti delle persone, perché nella vita io ho anche imparato a perdonare, è giusto che sia così. Certo non ho imparato a avere a che fare con la gentaglia, questo no, però siccome Conte non è un gentaglia, ma come intenditore di calcio è indubbiamente validissimo, non ci sono dubbi. Poi questo bisogna vedere come la pensa Agnelli, perché c'è stato quell'azio che c'è stato nei confronti di Agnelli, perché non gli ha voluto comprare i giocatori che lui ha richiesto, che poi tutto sommato, anche se lui voleva, forse ha fatto una voce grossa e magari lì è stato un errore di Conte, però tutto sommato, se permetti, una società deve soprattutto fidarsi dell'allenatore e dire: io voglio, quale giocatore vuoi che ti compri, cosa ritieni che manchi a questa squadra. Invece l'hanno presa di puntino, l'hanno preso l'uno con l'altro, quello là non me li compri e allora io me ne vado, quell'altro no, lo batto, lo gioco io, compro quello che piace a me. Non va bene, quello lì per me è stato un errore della società, visto e considerato che Agnelli è il padrone della società, per me quello è stato un errore, è stato. Però ciò non toglie che Conte non sia un bravo allenatore, l'ha dimostrato anche col Chelsea, appena che è andato ha vinto subito, per dire, no, non è da poco. Poi che estrema troppo i giocatori, il tutto sommato fa bene, perché i giocatori si devono mettere in testa che guadagnano milioni di milioni e loro se ne devono togliere la pelle possibilmente in campo, perché è giusto che sia così. Perché cioè, questa domanda l'hanno fatta a Dribbling l'altro giorno, capito? Che Luigi non si chiama, il telecronista che poi fa anche Dribbling. Questa domanda è stata fatta. Chi era lì, che adesso non mi ricordo, ma anche Bergomi Rossi, l'altro, come si chiama? Insomma, quelli già di soli, Corradi. Loro rispondono, potrebbe essere una grande soluzione, perché dicono loro, anche se, come hai detto tu, loro non l'hanno specificato nel specificatamente, non hanno proprio accennato ciò che noi sappiamo e che sanno anche loro, però dice perché Conte potrebbe avere la Juventus senza perdere niente, nel senso che, diceva appunto Corradi, il gioco che Allegri ha continuato a fare è quello di Conte. I ragazzi hanno un margine di gioco perché era impostato da Conte. Tutto ciò che è stato realizzato nei 5 anni sono i 5-4 anni, dice, lavorati da Conte. Mentre invece, arrivando un altro allenatore, ci potrebbe essere qualche cambio o di gioco o di inserimento o di tattica. Questo è quello che dicono gli esperti, che sono ex giocatori, no? Li conosci bene, ecco perché ti ho fatto questa domanda. Sì, ma in effetti è così. Tornando a Conte, sicuramente si tornerebbe, almeno suppongo, al 3-5-2, lo schema di gioco che adottava Conte, che non era uno schema da poco, che significa tre difensori terzini, tra questi due fuori edificanti anche, e cinque centrocampisti, che è un uomo in più, o meglio due uomini in più rispetto a come gioca oggi al centrocampo, anche se è uno in più in difesa oggi, perché oggi fa il 4-3-3, che è il gioco di Allegri, che l'ha travolto, perché i primi due anni, e anche parte del terzo anno, Allegri anche lui ha adottato il 3-5-2, dietro la scia del vecchio gioco di Conte, e non a caso ha vinto, gli ha dato ragione continuare quel gioco. Poi lui dice: abbiamo cambiato degli elementi e ha ritenuto necessario cambiare gioco. Ma ti ricorderai che soprattutto l'anno scorso lui quasi a ogni partita cambiava schema di gioco, perché è arrivato indeciso, non sapeva quale gioco effettivamente scegliere, mentre invece quest'anno ha scelto definitivamente già dall'inizio il 4-3-3, cosa che secondo me era migliore quello di prima, e infatti me l'hanno dimostrato. Ecco com'è, ecco appunto, non dimentichiamoci che Conte ha fatto 102 punti, cosa che non ha fatto mai nessuno. Poi c'è questa cosa da dire, se va Conte ci sarà anche Pirlo, perché Conte vuole Pirlo come allenatore della Juve 23, e non mi sembra poco. Allora insegna qualcuno a tirare le punizioni. Pirlo, sì, Pirlo, lo sappiamo, che cos'è e cos'è stato per la Juve. Però io vedo attualmente questo spiraglio. Ora chiaramente sta al presidente, alla dirigente e a tutto quello che c'è all'interno della società decidere che cosa fa. Anche Rossi ha detto non sarebbe neanche male tenere in Zidane. Il semplice fatto che, come hai detto tu, è un grandissimo affezionato alla società juventina, ma tra l'altro è anche diventato un bravissimo allenatore. Quindi potrebbe esserci questa cosa. Ma io ti posso dire che la mia risposta è io preferisco a Conte. Io preferisco a Conte. Per mille motivi. Poi ben venga Zidane, ben venga Guardiola, ben vengano tutti i migliori allenatori al mondo, però io per la Juventus, per quello che ha dimostrato e ha dato Conte alla Juventus, io preferisco a lui. Ah beh, questo non ci sono dubbi, perché se dovessimo parlare sul fatto affettivo tra i giocatori, Conte, fra il giocatore Zidane, sicuramente Conte ha dato più della Juve, cioè ha dato di più alla Juve, perché ha giocato tantissimi anni con la Juve, ma tanti veramente, ha vinto tanto, tantissimo con la Juve ha vinto. Poi devo dire che Conte non è più quello di 2 anni fa, 3 anni fa. Adesso Conte ha giocato, ha fatto 2 campionati in Inghilterra, ha fatto. Dunque, diciamo che ha acquisito sicuramente un buon quantitativo di esperienza internazionale, visto e considerato che ha fatto, a differenza magari di Zidane, che Zidane ha giocato tanto in Spagna che in Italia, perfetto, d'accordo, siamo d'accordo, però non dimentichiamoci che uno è avere il Real Madrid, che è la prima, e l'altro avere il Chelsea, e sono due cose molto ma molto differenti, due squadre molto differenti. Però ciò non succede che Conte, avendo fatto questi 2 anni di esperienza, si dovrebbe averne tratto un vantaggio enorme, suppongo, anche ritornando ad allenare la Juve. Io penso che sia molto vantaggioso, perché quando non dimentichiamoci che Conte è andato alla Juve, che è appena salito dalla Serie B, per cui non è che aveva così tanta esperienza, casomai se l'ha fatta dopo l'esperienza, soprattutto con la Juve, i 3 anni che è rimasto, ha acquisito esperienza, adesso è andato in Inghilterra e sicuramente ha acquisito un'ulteriore esperienza, e dunque non penso che sia male se ritornasse alla Juve. Di questo si parla, però ce ne sono anche altre proposte, altre valutazioni, e sai com'è, no? Nel campo del calcio ci sono tante cose che poi uno valuta. Queste valutazioni ci sono su Conte, sul nome di Conte, ma ci sono anche altre valutazioni di persone come Zidane, come Guardiola, ma addirittura si parla anche di Mourinho. Sì, sì, si parla anche di Mourinho, ma Mourinho io penso che alla Juve non sarebbe molto contento, non ci verrebbe, a meno che uno non gli fa un'offerta micidiale di soldi, allora potrebbe cambiare anche idea. Però io penso che Mourinho preferisca il Real Madrid, perché si parla anche del Real Madrid e a quanto sembra addirittura il presidente è orientato proprio su Mourinho. Staremo a vedere, veramente vorrebbe anche Zidane il presidente del Real Madrid, ma non credo che Zidane ci ritorni, no? Diversamente non si sarebbe dimesso lui, e non credo assolutamente, o forse ha intuito Zidane che la squadra ormai era in calo, in declino fisico, e allora ha preferito abbandonare lui il calcio, il campionato spagnolo da campione, quello che era. Ecco com'è, suppongo che sia così, perché tanto lo sappiamo, Zidane era disoccupato, non c'è domani di sicuro, e quest'anno o con la Juve o con qualche altra squadra andrà senz'altro, anzi addirittura lo vuole anche il Manchester, se il Manchester United lo vuole, penso un po' al posto di Mourinho, lo vuole anche lui, lo vuole, perché non è male, perché Zidane intanto è un segno, è educato, perfetto, non bisticcia mai con i giocatori, mi sa tenere bene il gruppo degli spogliatoi, insomma ha tutte le qualità per essere un grande allenatore e ha dimostrato di essere appunto. Io pure non ho capito, ma perché è andato via dal Real Madrid, c'era? Beh, lui è stato più che altro diplomatico quando si è dimesso dal Real Madrid, ha detto che voleva prendersi un anno sabbatico, ma quelle sono frasi che si dice per non essere scortese in una società che lo ha fatto grande, perché il fatto che lui ha fatto grande la società, ma la società ha fatto grande anche lui, perché prima da giocatore ha giocato benissimo con Real Madrid, è stato apprezzatissimo, poi da allenatore ha continuato a fare benissimo, non bene, ma addirittura benissimo. No. Ripeto, ha fatto benissimo anche da allenatore, per cui non credo che, perché ci sono stati dei momenti che l'hanno criticato a Zidane, mentre Zidane lui con la sua educazione non ha mai fatto polemiche, non ha fatto mai niente, ha solo ascoltato e ha dato la risposta con i fatti, e i fatti hanno dato ragione a lui. Scusa l'interruzione, poc'anzi che è la figlia che è stata, stavo parlando con lui, così. No, figurati. È stata proprio una sua decisione, dai, va bene. No, perché so che era abbastanza apprezzato lì, quindi non capisco come abbiano potuto esonerarlo. Vabbè. Francesco è tutto pure, oggi in conferenza stampa è già convocato Ranieri. Cosa ne pensi di questo Ranieri? Ma Ranieri, sì, diciamo che è una brava persona, ha avuto anche la fortuna di riuscire a vincere con Leicester, ha vinto anche, ha avuto anche quella fortuna lì in Inghilterra, è educato, è un signore, bisogna riconoscerlo. Però come allenatore non è un granché, per conto mio non è un granché, ma ha dimostrato in più volte, al di fuori di quell'anno che ha avuto una squadra straordinaria, Leicester, e poi invece ci sta, l'anno successivo non era nemmeno a livello della torre, se quasi, per dire, no? Non lo so, anche quando era con Cagliari, Cagliari l'aveva mandato via proprio perché non era un grandissimo allenatore. Grande uomo comunque, grande uomo veramente, cosa senz'altro. Vabbè, ma nel calcio non basta essere grande uomo, bisogna essere un grande allenatore. Vabbè, che sia stato esonerato dal Cagliari, Giulio, non fa testo, perché Cellino, suoi tempi, presidente del Cagliari, ne generava uno ogni agheta. Sì, ma quello sì, quello è vero. Sì, però quando poi l'altro che era subentrato, che non mi ricordo come si chiama, aveva disobbedito le sorti del Cagliari, dunque diciamo che tutto sommato quel licenziamento è servito al Cagliari. Anche se sappiamo benissimo che Cellino è più fatto ricordo di Zaffarini è più fatto di Cellino. Per non metterci poi magari di un altro livello anche De Laurentiis. È un po' come un ruttito, sono dei presidenti padre e padrone che vogliono comandare loro e non ascoltano nemmeno diciamo la supportazione tecnica che hanno nella loro squadra stessa, perché vogliono fare testa loro, sono i servizi e buchi. Soprattutto quello di Zampadini, ma carità. Sì, se Zampadini è una cosa allucinante. Vuol Palermo in Serie B, no? Allora, in Serie B, pensa che l'ha dovuto vendere, perché aveva 35 milioni di debito e stava per essere eliminata dal calcio che conta, stava per essere, per cui sarebbe retrocessa addirittura in Serie D, sarebbe retrocessa. A parte il fatto che questo presidente così salta in banco, io li chiamo presidente salta in banco, quando aveva il Verona lo stesso, era o Venezia, che qual era, Venezia o Verona, ma non già, mi confondo in questo momento, non mi ricordo se Venezia o se era Verona, forse era il Verona aveva, che andava bene, andava Zaffarini, insomma bene, discretamente ben brava, era una squadra che faceva la sua parte. Poi si è comprato il Palermo, perché a Palermo dice c'erano più spettatori, più incassi, insomma l'egoismo alle volte è anche di incassare, e poi ha dominato. Tra l'altro si è sempre venduto i pezzi migliori, si è sempre venduto, incominciando la Dybala, però ha fatto bene a vendere Dybala alla Juve, perché almeno se non l'altro ha riportato la Juve, quella che interessava a noi, claro. Sì. Continua a parlare anche per giugno di Marcello, ma si è inserito anche Bale, non so fino a che punto, così diceva la Sky Sport 24, io seguo molto, e ci sono dei cambi appunto, perché Dybala lo vuole il Real Madrid e quindi potrebbe fare un cambio con uno di quei giocatori, più chiaramente di là, perché Bale penso che non valga quanto Dybala in soldi. No, non credo proprio. Bale può valere se no 70-80 milioni, non penso di più. Dybala è calcolato minimo 120 milioni, per cui io a Dybala io lo proporrei al Paris Saint Germain in cambio di Mbappé, però naturalmente anche con l'aggiunta, perché sicuramente il Paris Saint Germain vorrebbe soldi, ma io a Dybala, se sarei stato io procuratore di Dybala, avrei detto con voi, a parte il fatto che ci avrei guadagnato, no? Perché se sai, il procuratore ci guadagna dalla vendita dei giocatori, l'avrei, o perlomeno Agnelli dovrebbe dire, vendiamo Dybala al Paris Saint Germain e diamogli anche 50-60 milioni oltre al cambio, vabbè alla Juve, cazzo, io sarei stato contentissimo se avessero fatto un'operazione di mercato così, perché Mbappé quello lì si guarda, sì che è un vero fenomeno, il gol te l'avevo detto anche qualche annetto fa, ho visto quel ragazzo giocando 18 anni, mi sembra che avesse allora 17-18 anni, altro che Dybala, è veramente un grandissimo fuori classe, quello sì che è un fuori classe, a differenza di Dybala, che per me è solo l'ultimo giocatore, ma non è un fuori classe, almeno non, fino a questo momento non l'ha dimostrato. Ascolta, Isco cosa vale secondo te? poi ti faccio, ti dico ciò che ho sentito a Sky Sport. Isco cosa vale? Isco vale un'ottantina di milioni. 80 milioni di euro, perfetto, quindi ciò che ha detto Corradi è giusto, perché lui dice, visto che ci sono queste richieste, perfetto, fossi stato, dice chiaramente io parlo da al di fuori e da opinionista, no? Lui dice, o Isco o Bale, la valutazione la fa la Juventus, perfetto. Marcelo ha già dichiarato che vuole venire alla Juve, come aveva già detto Ronaldo. Quindi, Marcelo è o Isco o Bale, che poi valuterà la Juventus in base a ciò, perché mi pare che hanno due ruoli diversi, più 40 milioni di euro. Ok, quindi Dybala è valutato 130 milioni di euro, questa è la valutazione di Dybala, non si esce da lì, la Juventus non avrà meno di 130 milioni di euro, quindi se tu conti 130 milioni di euro vai a prendere due giocatori aggiungendo dai 35 ai 40 milioni di euro. Magari, cosa significa? Significa davvero un attacco micidiale della rete, capita. Isco come grande centrocampista e vedi come ara, mamma mia, è proprio cosa forse di questo lì, poi con l'intesa che hanno qualche cosa altro si può immaginare, certo, vedi, mica è bravo mi Quadrado, ma a me piaceva, Quadrado era fortissimo, però vedi, dai, c'è una differenza, cioè è sostanziale anche qua. Bravo, vedi, ci sei già arrivato, perché molto probabilmente si parla di statistiche di mercato, però in queste statistiche di mercato c'è una Juventus molto aperta al dialogo, nel senso che dice si potrebbe fare, le dichiarazioni di Agnelli sono si può fare, ok? E lui dice che vorrebbe se si riesce a fare questi giochi di Carruccio, come dico io, si è promesso giochi di Carruccio, avere Marcelo, Isco e Bale, dando se Real Madrid è d'accordo, chiaramente Dybala non batte ciglio, non è la futinuta, Cuadrado è quello che bisogna vedere se è d'accordo, dando Dybala e Cuadrado, secondo lui con due spiccioli è un'operazione che si può fare, e lui cambierà il questo mi ha fatto ridere, perché, non so se lo guardi tu a Sky Sport 24 dopo mezzanotte, ma ci sono le interviste allucinanti, e lui ha detto che la Juve non si chiamerà più Juventus, ma si chiamerà Juve Real. A questo punto c'è da considerare, c'è questa miscela Juve Real, te lo credo, in effetti, guai se dovesse prendere più che due, capita, non so io, più anche il Marcello, sono già tre, e allora sarebbe veramente formidabile, capita, tanto perché stai rinforzando la difesa con Marcello, capita. Poi abbiamo Isco, che quando giocavo con il Real Madrid, diciamo che faceva più partite di quanto ne faceva Billy, perché Isco in realtà, o meglio, Billy sostituiva Isco, oppure Isco gli sostituiva Billy, a secondo delle partite della situazione, no? Ma se li metti tutti e tre insieme, poi in attacco, Billy, Isco e Ronaldo, siccome Isco è uno di quelli che porta palloni dal centrocampo, dove piani ci sarebbe, è un altro pianeta, sono quei giocatori, sempre che siano in ultima salute fisica oggi, perché io adesso un dramma di quest'anno l'ho seguito poco e niente, però mi ricordo benissimo come giocavano con il Real Madrid, con quella squadra era la paura, con Ronaldo in campo, era una velocità di gioco, fasce, centrocampo, non c'è altro nessuno. Tu immaginati una Juventus a quei livelli, tenendo conto che gioca, potrebbe anche aggiungersi Douglas Costa, sempre per il Real Madrid. Quindi i cambi potrebbero essere Dybala, Cuadrado, Douglas Costa, 3 contro 3. Ok, questi sono i giochi che vorrebbe fare la società. Ora bisogna vedere, perché l'intervista che ho fatto a Ronaldo, che poi se tu lo senti parlare fa troppo ridere perché non si capisce un cacchio, parla mezzo spagnolo, qualche frase sta iniziando a dirla in italiano, ma poca, poca roba. E lui sorridente come sempre, perché sembra che stia sempre ridendo anche in campo, giocatore allucinante. Ha detto in spagnolo e poi ha tradotto che quei 3 giocatori lui sarebbe nuovamente, non giocherebbe più con la Juventus, sarebbe nuovamente, giocherebbe praticamente di nuovo con Real Madrid, perché dice sono intanto i miei migliori amici, amici di gioco, amici di tutto. E poi ha detto c'è feeling di gioco, nel senso che io non ho bisogno di sollevare la mano per lanciare, loro sanno dove io sto e la palla me la danno e io segno. È quello che io ti intendevo dirti, perché sono affiatatissimi, si conoscono in una maniera, è come entrare le mani nelle loro tasche, senso, conoscono quello che hanno in tasca e quelli si conoscono loro sul capo di cacchio, per cui poi se si apre il cacchio e se si diciamo mette in evidenza questo Ramsey che è già della Juve e se riesce a prendersi anche questo Delic che è formidabile, è un centrale formidabile e dunque a questo punto anche Chiellini comincerebbe a prendere quel posto e comincerebbe con la differenza che quello è giovane magari non ha l'esperienza di Chiellini, però ha tutto il vigore fisico ed è fortissimo. Pensa che l'altro giorno quando ha fatto quella partita con la sua squadra era il migliore in campo in assoluto, era veramente forte, era impossibile riuscire a sorpassarlo, a metterlo in difficoltà. È veramente un grandissimo giocatore. Se anche il prossimo anno la Juve riesce a prendere quello, più con l'innesto di Ramsey, che dicono che è fortissimo, io la verità non me lo ricordo questo Ramsey giocando, l'ho visto sì qualche volta giocando con l'Arsenal, però non lo so, uno è vero, sto giocando con l'Arsenal, l'altro bisogna vederlo anche in Italia con la Juve. Devo dire che già mi ha fatto una buona impressione, è un buon giocatore, però prima di dare certe conferme lo vorrei rivedere giocando in Italia, ecco come, perché a volte succede che questi giocatori stranieri hanno una grande fama, una grande tecnica e soprattutto forza fisica giocando all'estero, poi vengono qua e fanno il tipo che so io, anche Ebrahim anche ancora secondo me non si è integrato bene con la Juve, però bisogna vedere se dipende da lui o se dipende anche dalla squadra come è messo in campo, che lo sa. Ma vedi, quei giocatori lì ancora sì, ti do pienamente ragione, non si sono inseriti, però fanno la differenza. Bentancur sta giocando bene, si sta inserendo bene, è chiaro che hanno bisogno di spazio, perché torniamo indietro nel tempo, cioè tu non mi puoi, continuo a ribadire, come ti ho detto l'altro giorno, far sì che vada via Benatia perché non lo fai giocare. È chiaro che se tu giocatori non li fai giocare, non li conosci, non li vedi, non si inseriscono, non apprendono il gioco che la Juve ha, la tattica, tutto, poi giocando con giocatori di alta classe, di grande esperienza, capito? Sia al centrocampo che come sulle fasce, in difesa, in attacco soprattutto, i giocatori devono giocare, non per perché tu fai una panchina da mille persone e poi non le fai giocare, non serve assolutamente a niente, non serve assolutamente a niente, quindi è così, la realtà è questa. Però Ronaldo ha dichiarato anche sempre nella sua lingua ultrarotta che Marcelo con Real Madrid gli ha fatto, proprio l'ha dichiarato, mi ha fatto segnare 22 gol. Ehi, ma lo sappiamo, Marcelo è quello che scendeva in attacco, scendeva sulla faccia sinistra, scendeva in attacco e gli metteva il pallone sui piedi o sulla testa, perché è un giocatore straordinario. E poi lo capisce, e si capivano fra di loro perché hanno un'intesa micidiale. E se dovesse venire Conte qua, intanto Conte devo dire che ha molto ma molto più polso di Allegri, perché Allegri bravo quanto vuoi, signore quanto vuoi, perché è educato, bisogna riconoscerlo, però secondo me non ha polso. Lui si sente troppo inferiore rispetto a questi grandi campioni che ha la Juve, lui si sente inferiore. Io penso che lui più di una volta ha ragionato in questo modo, ma io da giocatore non ero come loro, sicché diciamo che un pochino, forse io ho pensato anche a quello, se ne guarderebbe bene di andare a fare un'osservazione, magari che gli dovrebbe fare, perché è suo compito fargliela. Però io penso che abbia dei limiti di carattere, proprio per quel motivo qua. Mentre invece Conte era un gran giocatore, Conte poteva stare in faccia a chiunque altro, non ce n'erano problemi, era un centrocampista straordinario, e dunque, e poi Conte ha più polso, più vigore agonistico, eccetera. Io penso così qua. Sì, ma questo è scontato, Giulio. Tu tra l'altro, oltre ad essere una brava persona nel capire il calcio, ma l'hai anche giocato, è così. Conte non c'ha neanche le scarpe, i lacci delle scarpe di Allegri, ma cosa? Sono due persone completamente diverse. Secondo me Conte ha anche molta più esperienza di Allegri, perché Allegri ha mai allenato al di fuori dell'Italia? No, mai. L'unica esperienza buona, o meglio più grande, che ha fatto prima della Juve, quella del Milan, e basta, ma niente di più. E poi anche con Milan, tutto sommato, quello ha fatto, non ha fatto niente di straordinario. Il discorso è questo. Quando era poi con Cagliari, vabbè, non è che ha fatto più di tanto, vabbè, il Cagliari è sempre Cagliari, però anche come giocatore era questo medio giocatore, era un attaccante, ma era un attaccante a livello di chi ti posso, di chi lo posso paragonare, tanto per fare l'esempio, a livello di Matri, anche inferiore a Matri, perché Matri secondo me è stato anche più forte di Allegri. È quello che secondo me lui si ritiene un pochino inferiore a questi grandi campioni che ha, ma non solo come allenatore, cioè non si permette come allenatore di dire niente, perché sicuramente pensa, io come giocatore ero peggio di loro, ero inferiore a come giocano tutti questi, ma parlo di tutti, non solamente di uno, di tutti i giocatori che ha la Juve. Lui come giocatore, cioè, paragonando a quello che ha fatto lui sul campo di calcio, ai giocatori della Juve, lui non è niente, lui può essere nemmeno riserva, può essere, per dire, no. Ecco, penso che abbia un pochino di trattenimento nel poter fare delle osservazioni a questi grandi giocatori che ha la Juve. No, tu mi spazio, vediamo se vuole entrare qualcuno. Ma quello è il problema, quindi lo facciamo provvedere. Stiamo parlando di due allenatori che a pappa pronta si sono trovati come allenatori in una società che non ha mai avuto né crisi né problemi. Qualsiasi cosa hanno chiesto è stata fatta, è chiaro che loro possono sempre essere vincenti. Dal momento in cui la società mette dei limiti, anche loro si troveranno sicuramente in difficoltà, in grossa difficoltà. Però Conte è una persona che ha secondo me, molta più esperienza di Allegri. Allegri è andato a Romina, di cosa stiamo provvedendo? C'è una squadra di società, sì, tu mi parli a livello di Berlusconi, che cosa? Allora, se per quello anche l'Inter, quando era ai grandi livelli con Moratti, non ha mai avuto nessun problema. Oggi ce li hanno ambedue, perché hanno fatto dei cambi e delle valutazioni che secondo me non erano da fare, a vendere le società agli Samandria di Magnagani. Infatti, anche perché quando lui ha incominciato col Milan, ormai il Milan gli aveva anche smontato la squadra che aveva, non c'era più il Pupillo, non c'erano più i giocatori che erano prima, i vari Cotacusa, i vari Maldini, eccetera, eccetera, i grandi giocatori ormai non c'erano più, che lui non è che ha acquisito, perché quando tu allevi dei grossi campioni come quelli, fai esperienza, è diverso il discorso. Non è come allenare una squadra così di piccoli campioncini, quando tu hai dei grandissimi campioni è tutto diverso, perché anche loro, siccome sono competenti, e anche loro parlano con l'allenatore e hanno le loro idee, e l'allenatore ascolta e parla anche da loro, ci mancherebbe altro. Un attimino, penso in bagno, un attimino e vengo subito, ok? Vai tranquillo, già sono qua. Sono ritornato qua. Sì, sempre qua sono. Ok. Adesso, tornando al discorso anche del Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain, è vero che ha perso 3-1 con il Manchester United, però deve considerare che il Manchester, nonostante aveva perso con la Juve prima, ma poi ha anche vinto con la Juve. Di cosa è questo? Nella partita del ritorno, delle qualificazioni, ti ricordi che aveva battuto la Juve? Dunque, il Manchester, poi da quando se n'è andato Mourinho al Manchester, si sono ricompattati tutti i giocatori, adesso stanno giocando bene. Il primo è Pogba, Pogba sta facendo un campionato straordinario adesso, da quando non c'è più Mourinho. Prima c'era malumore e le cose andavano un po' storte, invece adesso stanno andando bene, ma bene veramente. Ha fatto un gol Pogba allucinante, vabbè che le ha fatto anche qualcuno con la Juventus, fa una bitta micidiale su BC. Micidiale sì, capita, poi ha un giocatore della forza fisica straordinaria, dunque è un gran giocatore, Pogba in gamba come giocatore, a me è sempre piaciuto la verità, anche se l'ultimo anno con la Juve aveva avuto un calo anche evidente, ma probabilmente perché c'era il discorso che se doveva andare o l'aveva fatta apposta, che lo sa, bisogna entrare nella mente di certa gente come mai aveva avuto questo calo, quando poi è andato al Manchester e giocava benissimo. Poi ha incominciato il secondo anno ad avere dei malumori con Mourinho e loro sai, chi è che ha ragione? Naturalmente chi ci piange è sempre l'allenatore, perché è stato quello che è stato esonerato, certo non può esonerare il giocatore, no? Questo lo sappiamo, la colpa è sempre l'allenatore, anche se io dico sempre che la colpa per me è dei giocatori che scendono in campo. Ma Giulio, tu mi insegni che Mourinho non è proprio Spirito Santo? Ma sì, quello è vero, è un grande maleducato, questo sicuramente, però come allenatore bisogna riconoscere, già è bravo, però come uomo è maleducato, è prepotente, è soprattutto prepotente, e forse c'è la cosa incompatibilità di carattere, non solo con Pogba, ma con diversi giocatori del Manchester, ed è per quello appunto che il presidente l'ha fatto fuori, proprio per quei motivi lì. Vabbè, vediamo un po', c'è qualcuno che vuole entrare su 10? Buonasera a tutti, sono in ascolto finché c'è calcio in ballo, così bella giornata, ho portato mamma a mangiare lì al Mac, oggi era la festa delle donne, quindi Buonasera pubblico, dai, buonasera, buon proseguimento, poi più tardi entrerò che mi sto riposando qua, sono coricato sul divano. Sì, ma tu non c'è una donna, tu dovevi accompagnare la tua madre con le sue amiche e lasciarla lì, e tu te ne dovevi tornare, e dovevi rientrare a casa, non era la festa tua, vero Giulio? Beh certo, e poi non sono d'accordo, ciao Marco, e poi non sono d'accordo col fatto che se noi stiamo parlando del calcio, questo non significa che non possiamo cambiare argomento, noi parliamo di calcio perché tra me e Claudio c'è una certa intesa in quanto sportivi e tifosi tutti e due, soprattutto nell'altra squadra, ma se poi subentra in questo un'altra persona, possiamo tranquillamente far cambiare questo problemi, non ce ne sono, ci mancherebbe Marco, ormai ci conosciamo, sappiamo benissimo quello che può interessare a te come questo e quello che può interessare ad altri, per cui cambiamo volentieri anche discorso, problemi non ce ne sono. Perciò non ti riposare più di tanto, ti riposi stanotte, così dormi tutta a una tirata, come si dice a stata, è tutta un tiro, e fai questo con noi adesso, dai, li prendi. No, dai, come... No, veramente, ho il volume al minimo, mi sono messo il cuscino dietro dove mi sto. Io stanotte praticamente è come che avessi saltato la nottata, credo di aver preso sonno alle 6:30 di mattina. E pensa che ho preso due cose per dormire. Nonostante ciò, non lo so perché questa cosa. No, ci mancherebbe, parlate. Io già sono qui, mi sono mezzo abbioccato, sono stomaco pieno, quindi oggi abbiamo mangiato alle 2:30, cosa eccezionale. E le amiche di mamma sono peggio di lei, chi con l'ossigeno, chi c'è problemi più gravi in famiglia, e le amiche tutta messa male, anzi grazie a mamma che c'ha a me, che la porto fuori. Quando vuole uscire mi, perché sta diventando sempre più restia a uscire, dice sempre no, piazza Le Seni no, piazzetta no, Dalcian no, oggi vabbè è stato un caso limite. Comunque per essere l'8 marzo non ho visto, credo di vedere l'assalto delle donne lì, Dalcian, i ristoranti, la Madonna, nulla, non c'era nulla. Forse organizzano altro, tipo spogliarelli maschili, no? Le donne, già lo sai, no? Che sono peggio degli uomini, quando vogliono. Vai Claudio. Vabbè, allora se si organizzano bene, si va a 7-0, è normale. No, vabbè, io quando sono da solo con Giulio, spesso e volentieri parliamo di calcio, se poi entra qualcuno cambiamo naturalmente il discorso, non ce n'è problema, ma figurati, assolutamente, tanto io già volevo avvisare. Va bene, l'importante sei stato bene, hai mangiato e tua madre è uscita, almeno ogni tanto esci a prendere una boccata d'aria. Ok, vai Giulio. Ok, certo, ma... vabbè, lasciamogliela godere questa giornata affettiva anche alle donne. Solo che io, per il mio modo di pensare, per me è una festa un po' stupida, un po' inutile, perché facciamo la festa delle donne, vabbè, la festa delle donne è tutti i giorni, quando soprattutto quelli sposate, quando sono trattate bene in famiglia, quando sono voluti bene dal marito, dai figli, eccetera, eccetera. Poi naturalmente ci sono quei delinquenti che le donne le picchiano e addirittura le ammazzano, anche quelli sono loro che bisognerà ammazzare, certi uomini, a carità, che vergogna. Anche ieri mi sembra un uomo e una donna, tutti e due ammazzati, sempre in ambito familiare, una vergogna veramente, sta diventando l'italiano, così io generalizzo chiaramente, sta diventando nei confronti della donna una belva, ma è possibile che ti sposi una donna, se vuoi bene, fai dei figli, ti formi una famiglia e poi la ammazzi, maio, dai, bisogna essere proprio malati di mente, perché in realtà per me sono malati mentali, quindi va bene, dai. Le tue volte regalate gliele hai a tua madre o Marco? Sì, ieri sera ho fatto la spesa lì, ho fatto giro largo e ho preso un mazzo di mimose, e siccome lei era in cucina, no, io gliel'ho messe su, vicino al letto, sul cuscino, e ha gradito molto, molto, me l'ha detto più volte. E vabbè, per lei sono, cioè, gesti così banali, però per lei significano molto. Bene, poi certe volte mi chiedo, questi uomini perché escono di testa, se certe donne non hanno proprio girato il coltello. Guarda, io ti parlo, ho avuto una tipa tanti anni fa che proprio, cioè, faceva di tutto proprio per, adesso dai, non mi viene il termine, ma girava il coltello nella piaga finché proprio non si spingeva a esplodere. Per fortuna io autocontrollo ne ho, non so gumacco, non del tutto almeno, e quindi poi se non si andava d'accordo ci si lascia, appunto. Ma certe ti portano a fare quello che non pensi che avresti mai fatto, quello è il problema. Va bene, dai, detto ciò io mi tolgo anche le scarpe che non le sopporto, mi metto in libertà, dai, mi abbiocco un po', fatemi abbioccare, vi prego. Poi ci sentiamo più tardi, fra un'ora e mezza. Ok, dai, proseguite, dai, vai Giulio. Ok Marco, va bene, d'accordo. Concesso il riposo. Che vuoi fare? Ce lo concediamo. Sto scherzando naturalmente. Certo, se ritieni di dover riposare, fallo pure, Marco. Noi siamo già un'ora e mezzo qua. Erano le 4:15, mi sembra, 4:20 quando abbiamo iniziato. Sono già le 6:20, si può immaginare. Siamo già un'ora e mezzo qui al baracchino con Claudio. Ma abbiamo discusso solo esclusivamente di calcio. Anche il pallone è tondo, come dico la tazza. Però io dico, ma il pallone bisogna saperlo giocare, se non lo sai giocare, è inutile che tu lo tratti. Vabbè, Sancho al calcio adesso. Capito? Così è qua, io l'ho fatto così nei confronti di certi uomini che picchiano le mogli. Ma mai? Ma non sono le mogli, ma nemmeno i bambini, i figli devi picchiare. Altrimenti uno scolaccione, ma che sia veramente scolaccione però. Non colpi a testa, colpi alle spalle, come fanno certi, o addirittura con la cintola. Ma questa gente pure in testa, non è possibile. Io non mi sono mai permesso di picchiare a mia figlia, ad esempio. Come a casa lo stesso, i miei genitori non mi picchiavano mai, né a me né ai miei fratelli, in una maniera più assoluta. Proprio perché ci vuole dialogo, in famiglia ci vuole dialogo, e col dialogo tu ottieni di più. Poi hai salvato dei golpi, ma quando mai? Ragazzi? Ma nemmeno gli animali si danno colpi, è sempre sofferenza. Vai qua. Assolutamente. Ma purtroppo sono questi uomini violenti che pensano di avere la supremazia sopra la propria moglie o fidanzata o donna che sia, in generale, capito? Purtroppo è così. Non ho inteso delle giornate, visto che ha strangolato una moglie dalla sala seduta nel divano, cioè l'ha strangolata la ragazza in Chivi. Ma io non riesco a capire, il vero sai qual è, come abbiamo già visto in sentenze allucinanti, e dopo un anno sei fuori, capito? Non è tirato in ergastolo, non ti è ammazzato da uno, dopo un anno sei fuori, è una cosa vergognosa, assurda. Sì, ma assurda però, ma non dico io. Adesso mi è venuto in mente quel delitto dell'anno scorso qui a Sassari, di Andanna lì, caspita, prima l'ha ammazzata la moglie, dopo l'ha anche bruciata. Oh. E poi mi dà fastidio anche l'atteggiamento dei figli, lui essere in carcere e i figli che vanno lì a visitarlo, ma io non avrei mai più guardato un padre del genere, ma quando mai, che si possa essere così imbecille. E gira la colpa, dice che era della madre, della moglie, cioè, anche sentendo i figli, cioè, io lo so perché questa famiglia qua è la parente di una famiglia che abita a San Giovanni, e dunque so anche com'è la questione. Come è successo? Dice che non andavano d'accordo fra marito e moglie, non andavano d'accordo. Allora, momento, un bel giorno, lui si è incavolato, oltre al fatto che prima picchiava sempre continuamente, ma tuo figlio, ad esempio, che vedi che picchia tua madre, che poi abbia torto, che abbia ragione, e tu non ti metti in mezzo e non fai qualcosa per evitare una cosa del genere, ma vuoi scherzare? Adesso che la ragione ce la possono avere tutti e due, o il torto tutti e due possono avere, perché c'è sempre quel famoso discorso di quella poesia, tra due che si bisticciano la colpa ce l'ha sempre lui e lei. Io me la ricordo una poesia quando era a scuola, addirittura quando era di elementare. Però tu figlio, vedi che i tuoi genitori non vanno d'accordo e tu non ti metti in mezzo e non fai un dialogo in famiglia a fargli capire a questi deficienti che si azzuffano e poi alla fine si ammazzano. E fatto sta, questo qui era molto violento, qui va l'ammazzata e poi la bruciata. E poi ha avuto il coraggio, vieni a vedere tua madre lì, che è morta, con tanto di faccia telefonando ai figli. Questo è quello che ha fatto quello l'anno scorso, e col delitto di pian danna. Sì, guarda, io non capisco, anche l'altro giorno stavamo facendo vedere di quel maresciallo dei carabinieri della DIA che praticamente in bagno ha ammazzato su Jenaro. Cioè, come fa un esperto come te, che sei un funzionario dell'arma, perché oltre ad essere un maresciallo era un funzionario della DIA, cioè, ma come si fa a dichiarare? Carrellato, pensavo che c'era aria, ma di cosa si fa vedere? Ma l'aria dove l'hai tutta in vedo? Ma è mai possibile che uno che sia una vita, che sia armato, che usi la pistola, scarrellando pensi che ci sia aria? Ma di cosa stiamo parlando di aria fritta? Ecco, gli hanno dato 5 anni, Giulio, 5 anni, una cosa allucinante, 5 anni, ha ammazzato un ragazzo di 22 anni. Sì, ma non è possibile, io alla volte queste leggi, non so se la colpa è della politica o se è della legge che applicano i giudizi, eccetera, boh, non lo so, però alle volte sento delle cose al sud, l'altro giorno lo stesso ho sentito in un dibattito politico quest'uomo che era stato raffinato, quello della benzina nella strada extraurbana, non mi ricordo di in quale paese, ma qui nei paesi di Sassari, sono entrati e gli avevano fatto la rapina, gli avevano fatto, c'era il dipendente, questi due erano in moto, erano il proprietario della rimessa, ha sparato, ha colpito il sellino della moto e poi del rimbalzo ha colpito la gamba di uno di questi delinquenti che erano andati lì per rapinare, ed è morto dissanguato. Poi a quello l'hanno condannato perché dice che ha sparato appena dopo di 80 centesimi di secondo. E cosa fece a sparare a questi delinquenti che arrivano quelli con la pistola in pugno? Cosa fece? Che sparino loro prima, così si ammazzano. Cos'è l'altro mondo, guarda. Cioè, non capisco il sistema che sta adottando lo Stato. Ma non ti vai dopo? Intanto l'hanno coperto, una cosa allucinante, solo perché era un funzionario dell'arma. No. Ma poi come fai a dare 5 anni? 5 anni. Le motivazioni che ha dato, tutte una più falsa dell'altra. La prima volta che hanno chiamato il 118 si è fatto male con un pettine. Ma io mi posso far male con un pettine? Mi posso far male con un pettine? E va via il proiettile di Lichina. Cioè, ma di qua stiamo parlando? Cose veramente vergognose. Cose vergognose, guarda. Cose vergognose. Avevo già chiamato volte, avevo fatto passare pena dell'inferno. Pena dell'inferno avrebbe passato quello. Tranquillo, guarda. Però purtroppo la burocrazia, lo Stato continua a sbagliare. E Ganta ieri ti venga lì che non ha fatto nulla. Infatti. Oppure quel commerciante che era stato rapinato 92 volte, non la volta, 92 rapine aveva subito. A un certo momento, nell'ultima rapina che era stata, ha sparato questo qua. E ha finito il coso, il bandito ha finito. Beh, a lui l'hanno condannato a 4 anni e mezzo di carcere, il bandito non gli hanno fatto niente, ne ha dato un mese ed è in giro e deve anche risarcire il bandito, ti puoi immaginare. Caspita, tu arrivi a casa mia con la pistola in mano, io che riesco a difendermi e devo essere io ad essere punito quando sei tu che sei venuto a casa mia a farmi del male. Boh. Ha fatto bene il suo disastro di Abbattieri, a Predanieta, in quel circolo di Sassari, a Predanieta, è andato questo qui a rapinare, è andato. Chi su capita, si dà a gran fatto, di là porto umano, Claudio, e l'hanno dovuto portare all'ospedale e gli hanno dato 30 giorni di cure, l'hanno tutto gratolato, tutto nero l'ha fatto, tutto occhi nero l'ha fatto, questo gabusiere del circolo di Predanieta. Ma quello dei cinesi? Registrato Brecchi, ma non so se era quello del cinese o che, il fatto sta, questo qui si è girato, questo è entrato, capita, con un coltello in mano, a rapinarlo, voleva l'incasso, voleva, era giornata, si era a porto umano, ma sussa gli ha dato, se ti succede, gli ha fratturato anche un braccio, forse gli ha fratturato anche delle costole, l'ha fatto la faccia più grande di un pallone, insomma 30 giorni di cure gli hanno dato, in poche parole. E riprendi Marco e poi fai entrare tu a Gianni, dai. Vai Gianni. Buonasera. Anche il traumatranico c'ha Giulio, traumatranico pure. E ti leggo che la metà giusta, ha fatto bene. No, come con mio amico Fratolo che è andato a buttarcelo fuori, stavano raffinando il circo e c'aveva la pistola a questo. E ha cercato di mandarlo via, si è tolto la pistola e lui ha cercato di chiudere la porta ma l'ha preso al braccio, l'ha sparato al braccio. Guarda, non è possibile Gianni, non è possibile che si debba arrivare a tanto, è incredibile. Guarda. Anche ieri c'era un farmacista, è stato rapinato 23 volte a Roma, ieri c'era un farmacista in televisione, in quel dibattito politico lo stava dicendo. Poi c'era, dice, una mia collega senza Roma 6 volte, una donna, farmacista Crei. Ma dico io, dice, o che siano questi qui tossici, o che tutto quello che vuoi, ma intanto tu stai entrando in una farmacia o in un negozio qualsiasi o in una gioielleria a rapinare con l'arma in mano. Ma quando mai? E io che mi difendo non devo avere il diritto di difendermi. Marco Mari di Salvini ha fatto una legge appropriata adesso per quanto riguarda questa storia qua. Avanti qua. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. Ok, ehi, Lucia, la realtà è quella, la realtà è quella. Le mani vanno tenute a posto. No, no, Ghiscio ha pigliato una mente acculturata perché io proprio l'altro giorno, il giorno dopo che è successo, mi sono trovato dal carrozziere, ne stavano parlando e gente che lo conosce ha detto intanto le mani pesanti ed è abbastanza grosso. E poi l'ha picchiato forte e poi ha chiamato i carabinieri. Capito? Quindi ben vengano queste cose, naturalmente con le mani, non con l'aimi, però ben vengano, così la gente capisce che non è che puoi andare a casa degli altri a rompere le palle, devi stare a casa tua, se soldi non ne hai non puoi andare a rubare a chi se li ha lavorati e sta lavorando, capito? Vai Gianni. Io anche se non sono simpatizzato di Salvini sono d'accordo con la legge per la legittima difesa, perché arrivate a certo punto la legge è dalla parte dei delinquenti, non dalla parte di chi ha ragione. E quindi su questa legge di Salvini io sono d'accordo, perché è una cosa necessaria. Interessante che non sia più difficile. Però poi bisogna sempre prendere degli sviluppi, perché poi magari ti spara una persona e la interpreta in una certa maniera, capito? E ti bolli due più una testa. No, l'hanno condannato quello del tabacchino che capito, l'hanno condannato, ancora penso ci sia appello, però l'hanno condannato perché aveva naturalmente sparato al buio, ha preso in pieno il delinquente e l'ha mucciato, però l'hanno condannato, adesso bisogna vedere se se possono tornare indietro, intanto la condanna gli hanno data, capito? È sbagliato, la legittima difesa ci vuole, perché se tu vieni a casa mia e io sono in possesso di armi, io le uso, perché è chiaro che mi devo difendere, a meno che non venga uno faccia a faccia e mi bussi di fin di curimani, ma se sono in tanti che vengono a rapinarmi, a fare male alla mia famiglia, io mi difendo con le armi che ho, e quindi è giusto che uno si difenda, la legittima difesa ci deve essere, perché in caso contrario è veramente a favore dei delinquenti, non si può andare avanti così, vai Giulio. Direi proprio di sì, senti, stavo solo io, tu ti vedi entrare a casa tua, scassinarti la porta, o entrare da una finestra, o che so io, da qualsiasi parte da dove entrano questi delinquenti, se arrivano alle 2, alle 6 del mattino, non è che stanno venendo lì a farti visita, e soprattutto perché vengono armati questa gente che va con la pistola, gente che va con i coltelli, gente che va addirittura con un'accetta, avevano fatto anche la rapina, ma da domani, dimmi tu se sono cose queste tollerabili, è chiaro che se ho una pistola ti sparo, oppure cosa faccio, ti devo chiedere prima che intenzioni hai di farmi del male, se ti devo sparare o non ti devo sparare, ti devo domandare su, così nel frattempo lui ti ha già ammazzato, non va bene, qui non si tratta di non è come un ragazzino che magari sta giocando a pallone che ti butta la palla dentro la finestra o nel giardino dove tu abiti e magari è capace che salta anche il cancello per andare a prendersi la palla, ma è un ragazzino che si sta prendendo la palla, un delinquente gli arriva e lui gli mandano con quell'intenzione, non è certo con quell'intenzione buona, no, con l'intenzione di fare del male a chi c'ha che c'è un canale a casa. Anche l'altro giorno un uomo di 88 anni sono entrati in due e l'hanno rapinato qui a Loceri, una cosa del genere, un paese qui in Sardegna, quello si è messo a gridare ed è riuscito a farli scappare, intanto l'hanno tutto massacrato perché l'hanno picchiato, l'hanno anche fratturato una mano o un polso che fosse, ma dimmi tu se queste sono cose da accettare, è chiaro che ci deve essere una legittima difesa, voglio vedere, riprendi Marco, ci sei, dai. Io e Marco ci difendiamo con la carabina. Te ne immagini? È il bello che adesso se spari a qualche rapinatore e lo ammazzi, hai la sfortuna di ammazzarlo, è bello che la famiglia ti chiede i danni, ti fa causa per magari 100.000 euro più, che poi dipende dall'avvocato, da loro, perché gliel'hai ucciso, il problema è che gliel'hai ucciso perché stava stavo facendo la rapina, una cosa illecita. I giudici non dovrebbero nemmeno accettare certe richieste, eppure lo fanno. Perché tu hai il diritto di difenderti, però anche la famiglia, tutti i romeni poi sono, adesso non voglio generalizzare, ma siamo sempre lì me. Niente, abbiamo parlato in due, dai. Cosa già? I romeni sono. Abbassa quel microfono già. È troppo rimbombante, è chiara ma è troppo rimbombante, se parli molto forte non si capisce niente. Guarda, io qua te lo posso giurare perché non ho mai visto niente, qua niente. Però io adesso quando mi trasferirò in campagna mi prendo l'altro portolano, perché io ce l'ho già per uso sportivo, la pistola ce l'ho. Spero di non usarla mai, perché io sono contrario a queste cose. Ma se dovesse capitare a me, come ti è capitato a Guido, in chi si avvelletta ai Treviso, che sono entrati, mentre loro erano addormentati, fa furà e tu fai del male alla mia famiglia, io t'ammazzo. Poi che mi mettano dentro, intanto t'ammazzo. Non credo, che tu devo dire, perché ci sono forse altre alternative, ci sono, quando uno si trova davanti a questi delinquenti, nella maniera più assoluta, è la legge che era sbagliata, ma adesso già la stanno modificando, per cui vediamo un po' cosa succede. Solo che ci sono questi giuristi che a un certo momento, ragazzi, ci sono anche contro, ce n'era anche uno oggi parlando contro questa nuova legge che hanno messo adesso. questo, non è possibile, ragazzi. Io avrei voluto vedere quel giurista se si trova lui, il delinquente, dentro casa alle 2 di notte, quando lui ha la famiglia addormentata, vedere come avrebbe reagito. Io penso che sarebbe stato, se era stato con il cazzo, se sicuramente a quel modo con il cazzo, sarebbe sporcato il letto dalla paura, sicuramente, guarda, perché non è possibile. Come fai tu a avere il coraggio di andare a difendere certe persone? Ma dai, ma dai. Oppure come quando quel delinquente di padre, che il figlio è andato a rapinare in Italia, è stato ammazzato, è stato da quell'imprenditore, l'ha ammazzato, e per fortuna gli hanno dato ragione a quell'imprenditore. Non hanno, sì, gli hanno fatto 2 anni e mezzo, 3 anni di processo, dunque si può immaginare che con quale mentalità ha potuto vivere i suoi 2 o 3 anni quest'uomo. E beh, nonostante tutto è stato minacciato dalla famiglia che o lo risarcisce il figlio morto, oppure dice che andava e gli ammazzava la famiglia. Il padre, un libanese, e vuole che uno vada a portargli i soldi direttamente in Libano per risarcire il figlio che l'ha ammazzato, che è stato ammazzato da quest'uomo che era tranquillo per i fatti suoi. Ma cosa è andato mondo, Marco, ripeto. I giudici sanno solo stare lì appollaiati su quel trespolo e capito, e stare a sindacare l'operato degli altri. Se capita a loro, poi ce la fanno addosso. Va bene, oppure c'hanno il sedere al caldo, magari c'hanno ville blindate, capito? Allora non capita, ma quando capita poi, deve essere scioccante. Poi non hanno rispetto a donne, anziani, capito? Ti pestano una tempesta di calci, pugni, per farti dire dov'è l'eventuale cassaforte. Spesso sì, romeni o albanesi, più romeni però che albanesi, o sbaglio, o già, in questi ultimi tempi. Allora, non è preciso con la zona lì, non trovano quattro giurate perché non ci vuole andare nessuno, perché fanno questi assalti delle vite. Praticamente un mio amico è partito e si è sposato là, e quanto sta facendo la guardia giurata con la mamma di Alfonso. Ma ne ha cambiato diverse comunque. E mi ha detto che un suo collega l'hanno messo in questa fabbrica d'oro, dove fanno gli d'oro, eccetera, eccetera. Da solo, praticamente uno l'ha minacciato con la pistola, lui è andato a difendere, si sono saltati dal tetto altri tre, si sono saltati addosso, l'hanno disarmato, picchiato e l'hanno lasciato, gli hanno rubato l'arma e più l'hanno lasciato in terra, l'hanno morto. E tutti temono andare lì, nessuno ci vuole andare, infatti tutti i lavori si trovano dall'oggi a domani, lui ha fatto una telefonata, il giorno dopo stava partendo. E meno male che non gli hanno fatto anche l'allaccio, me. Io, guarda, sarei d'accordo che se prendessero le armi libere, di modo che ognuno possa avere un'arma a casa, che naturalmente la custodisca come deve essere fatta, però che abbia un'arma, di modo che se ci siano questi problemi. Addirittura l'altro giorno hanno aperto un appartamento vicino a casa e qui hanno rubato una moto all'1:30 di mattina, capito? Di pomeriggio. Abbiamo trovato la moto, questa ragazza è salita 5 minuti per prendersi il cane perché ce l'ha fatta la mamma, e è un cagnolino piccolo, e mi sta lavorando, quindi l'ha lasciata la madre, l'ha fatta perdere, se la scelta io non ce l'ha più la mamma. Marco, anche quello hanno fatto, come dici tu, meno male che non gli hanno fatto l'abbraccio. Guarda che hanno fatto anche quello, addirittura tempo fa a una donna di oltre 80 anni che è entrata in questo disgraziato a casa sua, è entrato a rapinarla e gli ha fatto anche l'abbraccio come stai dicendo tu. Sicché vedi bene, dimmi tu con quale coraggio pure questo disgraziato è andato a stuprare questa donna che aveva oltre 80 anni, cose dell'altro mondo. Ma secondo te cos'è accettabile? Insomma, io dico sempre che il giudice deve fare il giudice, significa andare a lo Stato che fa il governo, loro si devono limitare a eseguire le leggi che fa il governo, invece si mettono a confondere la mente della gente e dice quello lì è un giudice, non è giusto che faccia così, ma non mai tu fai il giudice che ha di muto e lavora con i mezzi che ti stanno offrendo lo Stato, il governo, è inutile che tu vai a commentare, a fare, perché tu lo sai benissimo, la gente poi magari si convince anche sentendo la voce di un giudice, e il giudice deve fare il giudice, deve fare, non deve fare delle leggi, io la penso così. Vai Claudio. Un minuto solo che sono al telefono, vai già. Diciamo che siamo arrivati a tempi che bisogna cercare di andare col calma in casa, perché non è possibile, e se tu dici in casa cosa fare, e se si dà solo, quindi creo proprio persone. Vabbè, io ho anche il cane, diciamo che sta addosso, non mi lascia, però se hanno api, ammazzano anche il cane. Figurati se questa gente si fa metta davanti al cane, sono già gente decisa, risoluta, quella, non ne frega niente se uno ha il cane. Quelli entrano lì e vanno a casa della gente per fare del male, e quante ne hanno rapinato, soprattutto in Alta Italia qui, con questi disgraziati, per carità, no, non è possibile, non si possono accettare certe situazioni già. Poi vanno in male, io dici che se me ne liberano anche questa gente, non li condannano. Ma quando mai? Le leggi devono essere bene, soprattutto devono essere aumentate, e quando uno viene incarcerato per certi motivi deve farli tutti gli anni di carcere, gli anni di condanna, no dopo due mesi ti mandano magari agli arresti domiciliari, e intanto nel frattempo c'è un delinquente, cosa vuoi che gliene freghi di rimanere agli arresti domiciliari, vai, continua a fare la fine tranquillamente. Ci sono momenti che gli va bene, magari sono altri momenti che lo possono arrestare di nuovo, ma cos'è che combatte l'arresto domiciliare? Ma non c'è l'allarme, ma uno che ha l'arresto domiciliare non è una condanna, quello, ma lo si ingarina e butta la chiave in mare, cosa ne fai di questa gente? Li prendi Gianni, intanto Marco ci sei ancora, ma mi sembra che si era allontanato. Marco, ci sei? Sono rientrato. Sì, sono qua. Ha fatto capolino qualcun altro. Chi vuole entrare? Pomponio, tu sei. E purtroppo quando vai a parlare con alcune persone, dicendo le stesse cose che stiamo dicendo qua, ti dicono che sei fascista, che sei razzista, capito? Siccome mi difenderei da un delinquente romeno, allora sono razzista, o nigeriano. Perché se è bianco, allora sono razzista contro i bianchi. Poi la gente di sinistra fa dei discorsi folli. Per quelli di sinistra tutto è permesso, tutti hanno il diritto di entrare in Italia e fare quello che vogliono, mi stavo scendendo la parolaccia. La libertà, tutti liberi di fare tutto, capito? Tranne chi si difende, lascia per te. Vabbè, comunque è già una rogna, lo stesso burocratica per l'arma in casa e cose, rinnovi, uffa. Infatti io, sì, la passione è accademica per armi, però poi in casa è una rottura di balle, scusate il termine, no? Perché roba burocratica? Perché? Basta essere in regola, avere l'onietà, io l'ho fatta già due volte, il rinnovo del porto d'armi, e adesso l'ultima volta ho chiesto se potevo acquistare, e mi hanno detto che non c'era nessun problema, quindi va bene. Chi è che era l'altro? Antonio, tu sei? Buonasera, saluto. Sentiamo più la musica, la che tu. Che musica sta ascoltando su cosa? Su quella frequenza famosa? Mamma mia, Antonio, ne ha voluto. Ammetti che quando stai parlando spegni tutto, parla solo, se no non si capisce, non ci... Vai Gian. Ciao. Per quanto riguarda il cane, ne vogliamo parlare, c'è il cane, poi c'è il cane, lo abbassa. Adesso mi senti bene, sì? perfetto, Antonio. Cos'hai detto già? Se il cane? Che se il cane mossica il lato, perché stavo dicendo uno che c'è il cane magari si è difeso dal cane, ma se mossica il lato, che era battuto il cane? Se quella ti sembra una legge a te. Io ne ho due cani in campagna, che non sono i miei, lo sai. Ma penso che non vedo che a tempo manco di bugare la pittura, ma non che non entra già pronto con l'arma in mano a sparare. Anche se non manco il tempo, guardate, mi si doglia. Anche se lo mangiano, se lo mangiano, la pittura ve la fate di mangiare. E vabbè, comunque, lasciamo perdere. Le leggi sono sbagliate per qualsiasi reato. Le leggi sono sbagliate. Ne parlavo poc'anzi con Giulio, quel maresciallo della DIA che ha ammazzato quel ragazzo dentro la vasca da bagno e poi ha dichiarato che si era fatto male col pettine, andando a dare un'altra dichiarazione, un funzionario dell'arma che mi dice: ho scarrellato la pistola, pensavo ci fosse aria. Ma di cosa stai parlando, brutto imbecille? È come la storia di Placanica, prima la storia del sasso volante, poi la storia di non so cosa, il colpo di rimbalzo, poi non aveva sparato lui. Guarda che i peggiori sono quelli delle forze dell'ordine, si parano il culo a vicenda, sono i più bugiardi, è bello che vengono appoggiati da tutti i colleghi, perché è così. Ma cazzo, ma un giudice, oh Marco, ma un giudice, l'arma ce l'ho io, so che ce l'hai tu, Gianni lo stesso, cioè tanta gente che usa, io non sono un grande esperto per carità, ma un funzionario dell'arma, un carabiniere che ha 30 anni di servizio, che usi l'arma da 30 anni, il giudice può sentirsi dire ho scarrellato, era solo aria. Ma di cosa siamo a vedere? Quando tu scarrelli una pistola c'è aria, c'è aria. Cosa si tratta di una carabina all'aria compressa? Ma facciamocene la vergogna, facciamocene. 5 anni gli hanno dato a quello, 5 anni. Ma vi immaginate fra 5 anni quelle fuori e che di bavolaccia ne messo un figliolo di 25 anni? L'avevo morto subito, l'avevo morto subito. Vai Giulio. Già, non è quello che conta, sempre una persona, non si può condannare un delinquente, perché per me quello lì è un delinquente, è solo 5 anni, perché quando ha ammazzato una persona, in quella situazione si è un delinquente e basta, perché nessuno mi può dire che tu non l'hai fatto apposta, ma vuoi scherzare, non lo so io, non è possibile. Sto aggiornando a quello che ha detto un po' anzi, un attimo fa, Marco dice, la sinistra dice così, guarda, oh Marco, io devo essere sincero, ho sempre votato alla sinistra, ho votato, sempre, all'infuori di questa volta non ho votato alla sinistra. Però non è una questione di colore qua, non è assolutamente una questione di colore, e a me mi interessano le persone, le promesse e soprattutto che le promesse che fanno che debbano essere mantenute. E fino a questo momento ho visto che quello che sta dicendo Salvini, questa volta lo stanno facendo, anche se hanno il bastone tra le ruote, perché si sta alla sinistra, sta sempre non prendo le scatole, questo cannibalismo che hanno questi dalla sinistra, che a me ne fanno schifo, nonostante che io li ho sempre votati, ma adesso non li posso più vedere, quelli del PD, perché questo cannibalismo politico che c'è all'interno del proprio partito, che ognuno si è fatto il suo partito separato all'interno di un unico partito, ma da domani devi essere proprio un disgraziato, incominciando da Rema, da Bersani, da Cuperlo, guarda che adesso Renzi, anche lui non ha fatto grandi cose quando era al potere, però secondo me proprio nella sinistra se c'è uno che è il meno peggio di tutti è proprio Renzi, premesso che poi i politici lo so che prima o poi tirano sempre l'acqua al loro mulino, però quello che ha fatto il PD per me è una cosa assurda e penso che loro non riusciranno mai più a salire al potere, io questo che penso. Vai Marco. Comunque volevo chiedere a chi ne sa più di me, quali sono le modalità per conservare l'arma in casa? Io sapevo che andava tenuta a scarica, quindi il caricatore è vuoto, no? E le cartucce devono stare separate dalla pistola nella scatola, forse ci vuole pure l'armadietto blindato. Adesso non so se erano passate queste norme. Cioè, tu pensa, quando a pigliare la chiave dell'armadietto blindato ci hanno già sparato. L'arma va tenuta a carica se serve, e certe volte anche col colpo in canna. Non lo so, l'importante è non avere bambini che la possano toccare. Ma è ridicolo tenere la scarica, la cartuccia da una barca, la pistola all'altra, l'armadietto blindato. Poi non so se l'armadietto blindato l'abbiano approvato, perché c'era anche questa proposta, tutte le armi, quindi se hai necessità non avrai mai il tempo di prenderla, mai. Claudio, anche da te che ne sai di più. Poi che arma c'ho io, la pistola a salva c'ho io, c'è la carabina a compressa, c'è la cerbottana, la fionda, ma di più non ho altro. Allora, io con il portatore d'uso sportivo la posso tenere a casa, se la posso portare dove devo andare a sparare, quindi entro quel tragitto, non posso portarla in giro per la città dietro la schiena, per capirci. Le modalità che io ho nello scritto che ho sono detenzione d'uso in custodia di ferro chiusa, quindi io ho una cassettina con praticamente la chiave chiusa, la chiave ce l'ho io nascosta, e la pistola deve essere scarica, purtroppo è così. La pistola deve essere scarica e le cartucce devono essere da un'altra parte, proprio come hai detto tu. Io le cartucce le tengo dentro la custodia blindata praticamente, è una cassetta comprata in armeria, sempre lì da Pasquali, con la chiave, capito? Non è a muro per capirci, è una cassetta blindata comunque, che la chiave ce l'ho solo io, è una chiave di serratura di sicurezza per capirci, Giulio già mi ha cambiato tanto, beh, come quella che ho io nella porta blindata, come c'è già necessità, non dico le chiavi. Se è nascosta lo so solo io, a casa dov'è lo so solo io, ok? Però non la puoi tenere carica, ma non c'è niente da fare. Queste sono le leggi e così. E quindi condominio, quindi ci abito nel 1987, non è mai successo niente. Andando ad abitare in campagna, a piano basso, la legge me la faccio io. Senza dire niente a nessuno, me la faccio io. Ok? Io la tengo dove la devo tenere, però già pronta all'uso, senza stare a fare molti discorsi. Sono già stati fatti. Ok? Però la legge è quella. Come vedi, se uno segue le leggi, anche averla a casa non serve, perché a quando a pigliare la chiave, se fa in tempo a dire ma quello ti è già addosso, ti ha già sparato, accoltellato, poi gli americani, uno dice, ci sono troppe armi, sì, però anche i cittadini si possono difendere, quale armi ce l'hanno solo i delinquenti o le forze dell'ordine, o pochi eletti, capito, gli amici degli amici, cerca di capire a me, no? Ma io ti parlo di porto d'armi veri, cioè che esci con la pistola e fai i giardini di notte a passeggiare, si aggrediscono gli spari, per dire. Qua stanno sempre dicendo ci sono troppi porti d'armi in giro, troppe armi in giro, e si aspetti la polizia. Se chiami le forze dell'ordine quando succedono queste cose ha voglia a crepare mille volte. Sì, infatti uno si autoregola poi. Altro, l'armadietto blindato, lo lascio aperto e la pistola sotto il cuscino. Pronto all'uso. L'ho detto che il condominio è così e la legge va rispettata. Ok? Andando a abitare dove volevo andare a abitare, la legge me la faccio io. Io la tengo già pronta, senza lasciarla dentro la nascosta dove dico io. Ok? E poi ci vedrà. Ma spero che non dover mai fare una cosa del genere. Avanti, c'è anche Antonello comunque, avanti Antonello. Antonello Gianpiermer, mi. Traditore. Ah beh, se abbiglia in gomma le possiamo, vai Gianni, riprendi. Ehi, a quello che ho chiesto io, ma si possono lasciare i proiettili dentro il caricatore o no? O si devono, il caricatore deve essere fuoco? Assolutamente no Gianni, assolutamente no, la retenzione. In appartamento, come c'ho io parlo per il mio portolano, io ce l'ho l'uso sportivo, l'attenzione è l'uso sportivo, ok? Quindi non la posso portare in giro per la città in macchina, perché se non mi arrestano, la posso portare da qui al poligono, oppure da qui ad una manifestazione di tiro, cioè ad uso sportivo, ok? Però se io ce l'ho dentro casa, la devo tenere scarica le cartucce separate in un altro contenitore, invece io le tengo lì e basta, però ho caricato la mia scarica, dentro qua, dove sono adesso, dal momento in cui io vado ad abitare in una casa bassa, in una casa dove posso essere a rischio, me la faccio io la legge, Gianni, tranquillo che me la faccio io, capito? Senza dire niente a nessuno, me la faccio io, la tengo come dico io. Ma se te la trovo la scarica, sono calcina. Ma dovrebbe la dare a chi la vuole comprare, non so, dovrebbe la dare a questo libro. In modo che ognuno nel caso possa farsi, possa proteggersi e proteggere la fauna, perché non penso che se quei giudici che dicono di no a queste cose, succede a casa sua, che minacciano la famiglia, i loro bambini, la moglie, il coso, siano d'accordo. Ma ci vogliono requisiti, non è che ragazzi, due anni, la madre della Pasquali, io un giorno mi so, e ci conosciamo molto bene perché vado a comprare, ho comprato anche, sai, c'è abbigliamento sportivo eccetera, quando ero via Pasqua ho fatto una bella spesa, comunque ci conosciamo anche di persona. Un giorno ero di passaggio, stavamo al mercato ed era il periodo proprio di fine anno, ho detto, ma quest'anno voglio farmi due tiri in campagna, e mi sono ricordato che però non puoi sparare con i proiettili veri, non c'avevo proiettili di quelli a salve, adesso vado e me la compro una scatola. Non me ne adatto, no, non c'avevo il portolarmi appresso, non me ne adatto, ma ho detto non te ne do, non mi mettere nei casini, non te ne do e non mi ne ha dato. Perché a salve, perché a salve li compro tranquillamente, io ce l'ho portato a salve. Glielo spiego io. 50 euro e via. E spiegaglielo tu Marco, se non te ne danno, vai a comprare la vestirità. Allora già, le cartucce a salve, proprio quelle native, solo per armi a salve, libera vendita. Tipo le calibro 8 e le calibro 380. Invece le cartucce a salve fatte per le armi vere, cioè tipo 7,65 Browning, 9 per 21 a salve, se ci sono cartucce a salve però fatte per le armi vere, allora ci vuole il porto d'armi, è vero, questo lo sapevo anch'io. Ricordati invece le calibrotte, le 380, sono proprio cartucce fatte per le pistole a salve, libera vendita, è vero, è una cosa che ho detto, ma a che senso ha? Tanto uno dice, se uno c'ha la pistola vera c'ha già il porto d'armi, allora così le leggi sono. Tipo 9 corto a salve, 7,65 a salve, 9 per 21 a salve, anche il 38 special a salve, che è diverso dal 380. Il 380 è cortissimo, il bozzolo è lungo 17 mm, invece il 38 special a salve è lungo, c'ha la lunghezza giusta del 38 special, capito? Così le leggi. No, non tutti lo sanno quello, però a me l'aveva spiegato bene Pasquali. Tu con chi tratti soprattutto, Claudio? Con Marco o con Alberto? Hai capito? Tu c'hai una pistola a salve, cosa vuol dire? Una pistola che non ammazza, io ne aggiungo una che ammazza, se metto i proiettili 9x21 a salve, devo avere il porto d'arma per comprarli, già, hai capito? Ma io facciamo qui da solo, facciamo qua, pensavo che fosse diverso per quelle vere, per quelle a salve, io prendo le fiocchi, con le fiocchi, non 2 mm, praticamente me le danno tranquillamente, ma proprio non sapevo che per le pistole vere, per la salve, vabbè, se sono a salve, sono a salve anche per quelle vere, non capisco questa differenza. Sì, una cosa un po' strana, cioè alla fine non anch'io ho chiesto, ma il senso quale sarebbe? cioè, anche se uno ha una pistola vera, anche se ce l'ha abusivamente, cioè, spari a salve sempre, no? Vabbè, le giuppole, tutto 10.000 leggine. Per esempio anche per il fucile da caccia, il calibro 12, ci sono proprio le calibro 12 a salve solo per toccare, tipo sparare a Capodanno, dove è permesso, quando è permesso, e questi sindaci stanno vietando tutto. Uia. Faccia di maiale si è ricambiato, capito? Prima ha detto lascio, mollo tutto, adesso vista la solidarietà e l'amore dei sassaresi rimando. Che ti vegani gego di vegani. Quale sassaresi? Lui è stato imposto dal partito, capito? È imposto il nuovo segretario, come si chiama? Fratello dell'attore di Zingaretti, a lui gliel'ha imposto Zingaretti, perché lui deve finire il mandato, perché rendetevi conto che stiamo passando da un discorso all'altro, ma può essere utile, rendetevi conto che se veramente doveva andare come stava andando, arrivava un commissario di Forza Italia, perché il commissario di Forza Italia arriva, dovevano per forza mandare dalla regione. Noi eravamo per fino a maggio nella cacca totale, capito? Perché non si può fare niente quando c'è un commissario lì per controllare, non c'è giunta, non c'è niente, ed è un casino. Quindi è giusto che abbia ritirato le dimissioni per far sì che la città non è deserta in questi mesi che lui deve coprire il suo mandato. Poi a maggio per me si può buttare anche la Ponte di Rosello, tanto non l'ha giù mai voluto vedere, quindi non me la butti nulla. Vai Giulio. Ok. Sì, e beh certo, io lo voglio, quante cose nella vita, ragazzi. Nonostante tutto, Gianni, noi siamo brave persone e perdoniamo sempre tutti, anche quelli che ci fanno del male. Santa Madonna, ma quando mai? A proposito, Gianni, l'hai letto quell'affare che ti ho mandato qua, sì? Va bene così, sì? A me, sì, perfetto, l'ho già inviato a un paio di amici. Ok, va bene, dai. Sì, e io mi sento sempre ogni tanto con quell'amico, per cui va bene, per me è un amico veramente stupendo. Va bene, ui, Santa Madonna, avanti Marco! Quindi... sai quante volte me l'ha detto coso di Marco Alberto di Pasquale, dice visto che ti piacciono queste cose un po' strane, fatti il tiro al volo, no, pilati, portami il tiro al volo, qualsiasi titolo che ti permette di comprare, anche per esempio per comprare quei fuochetti artificiali, anche mezzi giocattolo, prima erano liberi, aveva porto d'armi che fa una stellina luminosa, me, quelli col bastoncino, me, i razzi, no, anche non troppo grandi, non quelli professionali, porto d'armi per tutto. Insomma, in Europa stiamo diventando in un regime. Comunque guarda che molte cose vietate da noi in Europa sono permesse. Germania, Francia, te le tirano dietro, qua è tutto vietato. Qua il cittadino lo vogliono disarmato, inerme. Perché sai, in caso di rivolta popolare, se il cittadino un giorno... come ai tempi del 1800 e tanti, si dovesse rompere veramente le scatole, e con cosa vai contro un eventuale governo? Con i forconi, con i forconi. Cittadino serve disarmato, capito? Serve disarmato, inerme, per fare quello che ha fatto quel famoso generale nel 1800 e tanti, adesso non mi ricordo. Il generale Bava Beccaris, no? Che in una rivolta popolare ha sparato con i cannoni sulla popolazione disarmata, perché cosa avevano? Forconi, falci, capito? A cannonate al popolo. E così funziona, capito? È come che fossimo sudditi, te capì? È come se fossimo sudditi mi sfugge il termine, in una monarchia, è la stessa cosa. Io guarda, ma sono contrario alle armi, ma mi fa che a questo punto bisogna anche tararsi un po' le spalle, dai, con la verità, perché io la verità sono contrario, non mi è mai piaciuta per un'arma, perché tu magari perdi la testa e vistici con qualcuno, ti dà una spariga, non si sa mai. Ma tu anche tu l'hai detto a libera vendita, ma tu lo sai cosa succede a libera vendita, tanto ci vuole un'eronietà, io ogni volta faccio le... non una visita, ma comunque certificato di idoneità, e poi sarebbe un... ma una tagliente vai mancante, ma una visita, guardia giurata, ammazza la... i figli, la moglie, e poi si suicida, si ammazza, gli dato, non so cosa ha fatto, spara al vicino per una lite, tutta gente armata, tutta gente polarizzata. Ah, ma è una cosa seria, ragazzi, non è buccia di gioco, no. C'è l'arma alle frette, deve avere la testa sul collo, perché altrimenti è veramente un casino. Comunque, è così già, è così. Io adesso sto decidendo che cosa fare, io sono 9x21, ma molto probabilmente me ne prendo una tamburo. Una tamburo, adesso vediamo. Ci devo andare da... lì da Pasquale la prossima settimana, adesso mi devo liberare di queste cose che sto finendo, poi ci vado una mattina e vedo un po' che cosa c'è. Vai Giulio, quindi Antonello non c'è più, vai Giulio. Ok, va bene, cosa dire, sta facendo, va bene, dai, questo lo metto a mettere, peggio per lui, vediamo bene comunque. Stavo seguendo un attimino la televisione, c'era Allegri che sta in conferenza stampa, vabbè, continuiamo. Sì, a questo punto, cosa volete che vi dica? Vogliamo intavolare qualche altro discorso? Voi, non lo so, volete voi, cosa dire? Voi. Ho ricevuto questo messaggio e devo dire che mi ha toccato, nel senso che mi ha fatto piacere che questo amico abbia pensato anche a me, e io l'ho inviato anche ad alcune persone, pertanto sono contento così, adesso lo invio anche a mia sorella, a mie sorelle anche, che anche loro ci tengono a queste cose. Vabbè, non mi sia qualche cosa, o Marco, o Gianni, non è importante, dai, adesso mi sono fatto tutto un discorso mio personale, scusatemi, dai, e riprendo fra un po'. Avanti Gianni. No, io ho acquisito a fare applausi. C'è uno che all'arma deve avere la testa attaccata al collo, come fai a pensare da quel porto d'armi? Anche tu hai ragione, oh già, anche tu hai ragione, però come si dice, no, fatta la legge è tolto l'inganno, purtroppo hanno deciso così. Tra l'altro ti giuro, perché io, Marco, io ho fatto la stessa domanda che tu hai fatto a me, l'ho fatta a Pasquale, ho detto ma scusa, perché come esce? No, perché come stai comprando? A me non me ne frega niente se sono a salve, però sono con una pistola vera, quindi mi devi portare il portavarmi e vediamo se è tutto in regola, se è scaduto, capito? Hai detto ma tu sei diventato esaurito, ma no, ma non sono esaurito io, sono esauriti le leggi, e purtroppo io, perché mi ha raccontato anche che ha avuto dei controlli molto molto accurati su queste cose, quindi non vuole assolutamente rischiare. E comunque ti ha risposto Marco, per la pistola vera sulle portarmi, anche per comprare quelle a salve, quindi non c'è niente da fare, per una scacciacani, per una di fare di giro brutto, che per una t'ammazza, sicuramente anche per quelle avranno fatto qualcosa, non lo so. Vabbè, domanda invece ti faccio Gianni, che cosa sto usando io, con che radio sto uscendo? Questa è una domanda da 40 milioni. Prova a parlare. Noti differenza giornalmente, lasciando perdere le prove che abbiamo fatto, eccetera. Secondo te perché è un K o non è un K? Domanda. Io dico K. Io penso che non sia un K, però ha una bella modulazione. Marco, questo è un Elbex 4082, col l'MB più 4, non modificato, ok? Solo l'MB più 5 c'è modificato. E Giulio mi ha detto no tocca se, lascia stare tutto così. Ma mancava solo questo, ma non avevo neanche voglia di provarlo, anche perché era tutto da pulire, l'ho pulito, ce l'ho acceso tutta la sera. Elbex 120 canali, SSB 4082, e ti dico che è una bellissima radio, non ha niente di davanti, quattro tastini, cambio canali e quattro clicca ballacca, NB, bibubba, eccetera, però è una radio eccezionale, c'è una ricezione, trasmissione da favola, nuova, nuova, nuova. Questa è quella di Pinacchio, non è bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Hai visto? Ci si è arrivato. Spesso microfono. Che usava il mio carissimo amico, la mazza Vini Rivaria, che dov'è in cielo? Se si era curato a quest'ora era ancora vivo, sì. Questa è la radio di Pinangelo. Ciao, ma perché lui la usava? Perché diceva che non prendeva strada la radio, ma l'hanno detto a me. Detto, poi io sono incazzato qua, ma uso questa perché non prendo strada, non senta nessuno, non ha radio sorda, e sento solo chi parla. Sorda non è, non prende splatter, ma non è sorda, il tuo segnale è 9 più 30, se su più del 30, come Marco, più Marco è appena appena più avanti di te, i segnali sono giusti, c'ha 8 watt, sì, 8 watt modulati 10, è nuovissima, il microfono è suo, era un po' tutto da pulire, sistemare, c'era pianto non si muoveva, ho tutto messo a posto, perché ho detto voglio montare quella radio, voglio montare, oggi l'ho montata, la lascio stare qua, assieme all'altro capo, quindi ce l'ho tutte e due in uso, uso un po' uno e un po' l'altro, capito? Senti che modulazione che ha, vabbè lui usciva molto bene, però io lo porto molto meglio di lui, come mi ha detto Giulio, modulazione bellissima, molto molto bella. Sì, chiaro, chiaro. Ce l'ho a 3 il microfono, ce l'ho a 3 il microfono, Mickey Gain non ne ha, figurati, non ha manco Mickey Gain, sta spingendo solo le mie corde vocali col microfono a 3, me l'ha regolato Giulio stasera, va bene, va bene. Persone brave Ginnandani, i Simonelle rimangono. Quindi Giulio ti sei allontanato o lo vuoi riprendere? No, già sono qua, sì, sono qua. No, è una radio veramente bella. No, e appunto gli stavo anche dicendo, Gianni, che è una radio molto bella, soprattutto per fare queste ore, di 2-3 ore anche, perché non è assolutamente stancante, è proprio perfetta, sia il volume, tutto, tutto, che poi è fortissimo anche di radio. Però la chiarezza per me è di una intelligibilità straordinaria. Io sono ascoltato con K, dunque capisci benissimo che qui le modulazioni sono reali, fedeli a quello che effettivamente uno trasmette. Va veramente bene, mi piace molto molto molto, mi piace moltissimo. Vabbè, non so, guarda te Marco, avanti. Io credevo che fosse un K attalato non troppo forte di modulazione, poi quanto me ne intendo io, figurati, poi sono, sai, coricato, c'ho il baracchino alle spalle, eccetera. Comunque già, per completare il discorso di prima, io ero andato 3 volte lì a Poligono con la lista foglietto, lo fai 10.000 marche da bollo, 10.000 bollettini, dei versamenti, documenti da fare, ho detto ma non ti nandi, alla fine spendevo un bel per niente, perché a me non serviva per l'arma, a me serviva per fesserie tipo fuochi artificiali da tirare a capodanno, banali, banali, roba che prima era di libera vendita. Lo sai, ti ricordi i fischioni degli anni 80? Quelli che facevano il fischio e il botto, quelli giocattolo che usavamo da ragazzini. Non si può usare niente che si sollevi da terra. Per i fischioni, il porto d'arma, per i fischioni giocattolo mi comprati in cartoleria. Questi stanno diventando scemi del tutto. Vai Gianni. Io te la Giuseppe, avanti, buonasera. Sì, ciao. Gianni, tutti i gesti, tutti i voti. No, questo è Antonello, sta uscendo anche Rongiato, Basso, Cuppo, noi. No, è di Giulio Rolla, lo faccio per tutti. Ah, ma ogni andato ti fai, ma perché stai scendo così adesso? Sto usando il portatile, quello che mi ha dato Marco, colpa tua, Eli. Io, Antonello, non stavi più riuscito. Questo fa quanto mi colpa, quello che mi ha dato Marco, quindi la devo anche la veloce. Durante una tre scopi, ma c'è una pecca sempre, c'è stata fuso e mi piglio in piedi. Ma l'alternata non è di serie in quell'apparato, eh? È forza, hai messo l'alimentatore 12 volte così, capito? Vedi che c'è la parata nell'alternata. Ehi, comunque in Italia è tutto al controsenso, poi in dettaglio te lo spiegherò meglio. Cioè fanno di tutto, fanno i salti mortali per vietare delle fesserie e poi le stesse fesserie le adottano le forze di polizia o le hanno sempre adottate. Cioè se fa male, cioè, se i prigionati lo usano e può far male, può essere letale, vale anche in un altro senso, capito? E qua diciamo, per il Ministero dell'Interno andrebbe abolito. Abolito e fucilati tutti i componenti. Ah, te lo spiego io, ieri si stanno di comprare certe cose e devono avere il loro perché hanno solo da vincere contro di loro. No, ma vuoi un esempio? Ti faccio un esempio, posso? Scusate, cercherò di essere breve. Allora, il gas CS sarebbe il lacrimogeno che usa la polizia, no? Sì, praticamente in quantità industriali durante la guerra poteva essere usato come gas soffocante, no? Che ti toglieva il respiro, il CS, no? Ma in quantità industriali. Quindi in Europa, tranne che in Italia, vendono anche, oltre allo spray al peperoncino, lo spray al CS, no? Però proprio durante le guerre avevano ratificato che questi erano aggressivi chimici, non armi chimiche, aggressivi chimici, che è stato bandito, è stato bandito dalle guerre qua, cioè non si possevano usare nemmeno in guerra, no? E la polizia italiana li usa, però ogni manifestazione spara lacrimogeni su lacrimogeni, i Valli Susa hanno intossicato mezza valle, oltre che manifestanti anche residenti, è sempre così, no? Però se tu ti vai a comprare per sbaglio una bomboletta di gas CS in Italia, ammesso che la trovi, che è un giocattolo perché quella è anacquata, è proprio ridicola, è come il peperoncino, diciamo, no? Cioè è efficace ma non ti lascia. Quella ti fanno un bel story, quindi ne hanno vietato l'importazione, l'acquisto, tutto, però loro la usano allegramente. Lo stesso per gli storditori, che sono quelli europei, sono ridicoli perché ho letto recensioni, ho visto video. Quegli storditori di cui fanno un gran parlare, quelli europei sono ridicoli, sono poco più che giocattoli, no? Quindi hanno fatto di tutto per vietare tutto, detenzione, importazione, acquisto, manco avessi una bomba atomica, e poi la polizia va ad adottare il taser, vedrai quanta gente ammazzeranno, come in America, perché il taser non è uno storditore normale, quello spara elettrodi e ha un amperaggio abbastanza alto, tant'è che ti paralizza all'istante e cadi a terra con un sacco di patate, perdi proprio il controllo di tutti i muscoli del corpo, ti fai anche la pipì addosso. Quindi se trovi uno che ha un soffietto al cuore, che ha qualche valvola fuori posto dal cuore, che ha qualsiasi problema cardiaco, è molto probabile che l'ammazzi. Infatti in America un bel di gente è morta per il sasso. Però non sia mai che un cittadino abbia uno storditore elettrico che lo usano per giocare, se vai a vedere i campus americani, lo usano per darselo nelle chiappe, no? Per giocare lo usano, capisci a me? Come già? Non t'ho capito. Che è purtroppo così, ho detto. Che fanno le decisioni, ma non vuole fare. Ce ne sono vari, c'è il CN, il cloracetofenone, il CS, il CR, in Italia, anzi è un miracolo che abbiano lasciato stare le bombolette al peperoncino, purché con una bomboletta non più grande di 20 millilitri, 20 millilitri di contenuto. Prima c'erano da 40, da 50, però insomma, ogni tanto cambiavano le leggi, ogni cambio di governo, ogni cambio di anche al ministero cambiano le leggi, non fa altro. Quindi quello che era illegale ieri, oggi è legale, domani sarà di nuovo illegale, come le balestre. C'era stata la questione delle balestre, prima attrezzi sportivi, poi il giorno dopo vietatissime in porto d'armi. Tant'è che sono dovuto andare in questura 20 anni fa a far vedere che avevo delle balestre e pistole, no? Che le tieni in mano, no? Poi di nuovo liberalizzate. Fanno e disfano, qua, ecco come scaldano le poltrone, capite, in Parlamento, fanno e disfano le leggi, le fanno e le disfano, in base a orientamento politico, modo di pensare, capito? Non va bene così. Sì, va molte cose, anche nei lavori che fanno città, perché sono così più banali, prima fanno una cosa e poi la disfano e poi ci rimettono su, la fanno diversamente, insomma, spendono soldi così facilmente. Fate girare. Avanti, no. No, Giulio, aspetta, poi è rientrato anche Antonello, vai Giulio. Ok, non so di cosa sta parlando perché mi sono allontanato, che è venuto un vicino di casa e mi ha chiesto un'informazione. Sono appena salito di nuovo su qua. E di cosa stavate parlando, Gianni? Stavamo parlando, che stavo parlando praticamente bombolette di gas e queste cose qua, che praticamente l'avendo stato nella polizia, però alle persone normali, capito, no? Non le fanno usare tipo lacrimogeni, questi gas qua. Ah, capito. Ma il peperoncino però lo vendono e tanta gente lo compra. Infatti l'ultima bravata che hanno fatto con cosa, il peperoncino, hanno fatto del danno grave, hanno fatto. Ma non pagando mai, capita. Perché la gente si spaventa e dunque a un certo punto succedono incidenti. Si calpestano fuggendo così, sono fuggi così delle persone, uno cade, si passano sopra, come è già successo tante altre volte, era successo anche l'anno scorso a Torino, in una famosa partita di calcio, è successo anche da poco in una discoteca, insomma, sono bravate queste che non si dovrebbero fare, però purtroppo ci sono i fatti, ci sono nella vita che succedono queste cose. Comunque. Invece a Marco non gli succede niente, intanto ad uno esci e non gliene frega niente, vero Marco? La gente è caduto dalla gadria, vai Antonio. Marco, aspetta comunque la raccolta per la gente perché non le danno questi permessi. No, Giulio, quello non si può vendere oltre una certa quantità, prima c'erano tanti millimetri, però adesso lo puoi prendere solo quello piccolo e basta, non puoi usarne più di tanto, capito? Sì, ci sono, però la gente li usa per giocare, ma forse per quello che non danno permesso di aprirli normalmente, dai. Come sta uscendo? Bene o male? Già va bene, avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, che murla! Ehi, vabbè, già va bene, un po' cupo la radio, ma già va bene, dai. Già ti capiamo, non è un problema. Ma poc'anzi, più a me, vedi? Sì, sono andato 2 minuti con Gio Maria, poi sono passato col portatile in 27, con l'Handy con 40S. Ho visto già mi ascoltavo tutti, quindi vuol dire già funziona. Dalla oggi, e poi ho attaccato a questo. Portatile sarebbe la 87. Ok, vabbè, già si capisce bene, non è un problema. Antonio, già va bene, dai. Gianni, cosa sembra Antonello? Un tiribicu che salta da un punto all'altro, e così fa lui, fai bene Antonello. sei padronissimo di fare quello che credi, ci mancherebbe altro. Io sto scherzando, chiaramente. Fai bene, fai. Sono entrato, Non te lo puoi impedire. Vero Claudio. Sì, Antonio, già lo sappiamo, ogni tanto va, saluta, torna, ma è così, già va bene lo stesso, già va bene, no, io ce l'ho spento più o meno, no? C'ho solo questo barattino acceso, basta, tanto siamo qua, stiamo facendo due chiacchiere, quindi è più che sufficiente. Sì, Antonio, un pochino occupa rispetto all'altra, però dai, già ti capisco. Eccomi. Aspetta un secondo, voglio regolare il... Guarda, qui ci sei tu. Quello che c'è dentro la salotta, due minuti, Sempre prende Marco, vai Marco. Ehi, a Giulio. Sì, praticamente quella è la sostanza, cioè... Al cittadino viene vietata una cosa perché potenzialmente può essere pericolosa, però poi l'ha adotta la polizia o l'ha sempre adottata, capito? Quindi se... Anche se fa male veramente alla persona, alla polizia, cioè non gli bastano le armi vere, deve trovare altri sistemi per... Vabbè, adesso lasciamo stare. Comunque la situazione è quella, il cittadino deve essere inerme, l'abbiamo già espresso quel concetto. Così in caso di rivolte popolari siamo a mutande cavate, ti capì? Beh, ogni manifestazione si vede, no? Poi ho perso il filo del discorso, mi ha chiamato Ivan, adesso facciamo un giro, un caffè, quindi mi metto le scarpe, di nuovo vado in bagno e poi usciamo, facciamo un breve giro, non come l'altra volta, dalle 6 a mezzanotte, fuori. Tu a me lo dici, quando ti ha pagato il tappo, come va adesso qua, per un tappo ma non lo peggio. Va bene. Ah, ok. Girato un po' il lavoro del tuo, vabbè. Io sarò, cammino non è colpa, con la cosa che andrò tranquilla. Per rispondere a Marco, sì, in effetti è vero, Marco, il cittadino, tutti dovrebbero essere inermi nei confronti delle persone, ci mancherebbe altro. Purtroppo c'è sempre il trasgressore, perché lo sappiamo, no? Succede, la vita è così, ma comunque, anche per quelli ci sono le leggi e devono stare molto attenti, devono stare, perché non si possono fare certe alzate di testa, o meglio certe pazzie, perché per me sono solo pazzie quando uno trasgredisce e sconfina in certi atteggiamenti, ci mancherebbe. Ma comunque, vabbè. Avanti Gianni. Sì, ma lo fanno tutto a forza, perché tu non ti riesci a farlo di freddo, se no sarebbe una guerra alla faccia. Invece loro già lo tutti più piano, in contro di te, con quelli di freddo, e fanno ciò che devono fare, ma se non avessi a te a e poi già. Adesso per dire, questa storia del CS è una gran cagata, perché il CS è una fesseria, cioè come il peperoncino ti infiamma, ti toglie il respiro, ti fa tossire, te ne escono gli occhi dal bruciore, è lo stesso il CS. Poi il fatto che l'abbiano bandito da ratifiche internazionali, no, in tempo di guerra non lo puoi usare il CS, chi se ne frega, in caso di guerra usano il sarin, il tabun, il soman, il VX, non te ne dico il VX, quelle sono vere armi di distruzione di massa, cioè usano quelle in guerra e mi vai a vietare il CS, ma lasciamo perdere. Vabbè, comunque la logica è quella, se una cosa oggettivamente può essere nociva per la salute, può far male, fa male da chiunque lo utilizzi, cittadino o istituzione, capito? Istituzioni possono usare tutto quello che vogliono, letale o meno, che fa male alla salute, il cittadino no, vabbè. Non allunghiamo però il discorso, ci avete capito cosa voglio intendere, no? Vai Claudio, dai, mi devo mettere le scarpe, andare in bagno e poi sto uscendo, dai, vi saluto già da adesso, ok? Intanto sarà qua un momento, sì. Vai Claudio, ciao. Ehi, va bene. Aspetta, io però sto facendo un Gianni, tu hai ragione, però come ho detto poc'anzi, il trasgressore c'è sempre. C'è sempre, quello è fuori di dubbio. Purtroppo è così. È cosa Petroncino, sembra così, ma è una cosa molto pericolosa, perché la gente si spaventa e va in fuggi, che non sai cosa succede. Tu immagina dove ci sono donne, dove ci sono bambini, che caspita. E quando cominciano a passarti 1000 persone addosso, perché c'è un locale e ti calpestano in tutte le maniere, e diventa molto ma molto rischioso per la vita di certe persone, perché è già successo e abbiamo già una certa esperienza nel poter capire e soprattutto nel giudicare certi atteggiamenti a caricare. Babbo, dai, riprendi già. Ma perché la gente non ci aspetta, lo usa per giocare, capito? Lo usa nei locali di discoteca, tutti qua, e per uscire si sa che lui sta avendo i respiratori, gli occhi, eccetera, eccetera. Quindi la gente si vede che non riesce a respirare, è normale che cerca di scappare fuori, capito? Normale, una cosa normale. Claudio, avanti. Aspetta. Una cosa poi valo, per quel fatto di quel locale discoteca, quello che era dove c'era quel DJ, quel rapper, no? Lì praticamente questo schifo di opinione pubblica che abbiamo, questi giornalisti da strapazzo, no? Praticamente quello che ha spruzzato, il vero imbecille che ha spruzzato il coso, è passato in secondo piano. Hanno fatto articoli su articoli attaccando il DJ, come mai questi ragazzini andando a vedere il DJ, quasi quasi la colpa era del DJ, no, del rapper, no? E poi l'hanno anche indagato perché secondo loro nelle sue canzoni invitava all'uso della marijuana, cosa che hanno fatto tutti i rapper della storia, ma non da adesso, da 40 anni a questa parte, per dire, no? Capito? Strumentalizzano le notizie per distogliere l'attenzione magari sul punto coso. E il cretino che ha spruzzato il coso, da lì è nato tutto. Non è nato dal DJ o dal rapper. Mi è arrivato, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao Marco, ci sentiamo. Sì, ma è così, purtroppo è così. Le informazioni oggi non sono tutti, i giornalisti ce ne sono tantissimi, ce ne sono migliaia di giornalisti in Italia, però quelli che sanno fare veramente una buona informazione sono proprio pochi. Gli altri sono scrivo a bocchi e basta, o Gianni, ripeto. Sai che devo scrivere una parola in dialetto polacco, io scritto la musica. Che non va bene, anche l'Italia, anche quella della cultura, vedi, anche lì noi siamo indietro, noi sardi siamo indietro, perché dovremmo scrivere anche con la nostra lingua, perché anche quella è una cultura che noi stiamo perdendo. Ma guardi Antonello, facciamo la raccolta differenziata con chi cazzo di cose di casino, ragazzi. Un po' di plastica, un po' di umido, un po' di cose, hai capito? Ragazzi, mi sono fatto la casa separata, dalla parte della carta, dalla parte della plastica, dalla parte del coso, adesso ne ho i coglioni veramente in terra, ragazzi, questa storia qua, perché non è possibile, cioè, io per la settimana con l'umido buttato nel coccato, magari c'è pesce, cazzo, ho mai dato bistecche, deve stare con 4 giorni a rampazzino, a far culo, cazzo, a Silvia, perché se altro l'ha fatto. Ma lì io ho la casa, ce l'ho la metà interrata, praticamente c'ho un contenitore lungo dove c'è plastica, vetro e cartone. E poi quello l'umido, praticamente c'ho la pastiera per me. Ma Antonio, scusa se interferisco, ma non lo puoi dire dove eri ieri se ti dà i cosi separati? Scusa, non è che... a me me li ha dati Mauro. Io ne ho due e faccio... e faccio da una parte una cosa e da una parte l'altra. Già ti ho capito cosa vuoi dire. Il fatto che non ce li ho. Sai, ho preso delle scatole di cartone. Ci ho messo la busta dentro, da una parte la plastica, dall'altra plastica in pratica la fine, poi dalla tappata l'umido e poi la tappata è secco, quindi devo stare molto attento perché cazzo il cane, se io metto la scatola interna, siccome quando vado a bassa aria, prende, ci passa, ma mi pisce la scatola, esco secondo, quindi devo fare quelle cose in alto, capito? Ha arrivato la specie di discarica dentro a casa per fare le cose, la stasera si buttò, ma è tutto umido immediatamente. Poi quelle poche lattine plastica che sto cercando, roba di pezzi di baracchina, roba del genere che non mi interessano niente, così mi riempio la busta e la fa il culo a un certo punto, non si può così, è un troiaio, meglio prima scendevi giù, prendevi la busta, la fai giù, tu la fa il culo, invece adesso vogliono le cose, la plastica al rosso, quell'altro, poi ci sono altri giorni, bello quello, non è che lasciano controllare se la posso buttare stasera o posso buttare domani, perché se vedeva magari i balancini, quelli con il fungone piccolino, quello rosso, già lo sai anche tu, che ieri erano qui, ieri mattina, a fare la colazione, rilassoni, ha capito, fino alle due, fino alle due, quindi si mette lì e sentava le persone. Vabbè, dunque, basta dirlo a quell'amico dove eri ieri e te lo fai dare. Va bene, avanti Giulio, riprendi. Ok, no, qui noi siamo già un paio d'anni che stiamo facendo la differenziata, da quando ne hanno tolto i cassoni, qua nella montata, qui non ce ne sono più cassoni di una volta. E dunque ci hanno dato una scatola di cartone gialla per la carta, poi ci hanno dato un contenitore per il vetro, uno per l'umido e uno per il secco. Più per la pratica ci hanno dato le buste, che poi io non ci sono più andato a ritirare, per dire la verità, essere sincero, ci sono andato una ventina di giorni fa, ma c'era tanta di quella gente che ha preferito no, me li compro come sto facendo già da un po' di tempo. Dunque me li sto comprando le buste, quelle trasparenti, perché loro vogliono buste trasparenti per qualsiasi cosa, per qualsiasi rifiuto, sempre buste trasparenti, non accettano le buste nere perché devono vedere quello che c'è dentro, se no fanno la multa, perché qua questi bidoni che mi hanno dato sono numerati e questo numero è stato registrato, sono passati con una macchinetta che hanno loro, un computerino probabilmente, e hanno associato il nome delle famiglie al numero del contenitore. Dunque se uno dovesse fare il furbo che cambia il contenitore eccetera, lì si trova fregato, perché c'è questo discorso numero, per cui non si può fare una cosa del genere. Ma devo dire che ci troviamo bene, nel senso che piuttosto adesso questa volta hanno stravolto, quest'anno hanno stravolto il calendario dell'anno scorso, perché prima c'era la pratica una volta alla settimana, adesso c'è due volte, qualche volta capita anche tre volte. Evidentemente si sono resi conto che la gente consuma molta plastica perché compra acqua anche per cucinare e dunque se ne consumano bottiglie se ne svuotano. E allora io cosa faccio? Quando ce n'è troppa prendo, leggo la busta e me la porto a stanza, intanto salgo tutte le mattine e la butto davanti a bottega, la butto, tanto più che io pago, ma la stessa modesta anche per quel locale, 220 euro, 221 euro all'anno di stessa modesta lì, e altrettanto li pago a casa e totale 450 e oltre. Perciò usufruisco sia di questo servizio qua che anche di quello di Sassari. Avanti Gianni, dì a voi com'è. Stavo scrivendo un messaggio. Sì, è così. Io però quella posta la uso, mamma mia, perché se c'è roba lì, forse è stato cantamento mentale, ce l'hanno che verranno tirata. Quando è porta a porta anche qua, però è dentro contenitore, non lo puoi mettere sulla busta così, sì, senza contenitore, se lo fanno gli animali, la tagliano e portano la strada, no, quello no, qui funziona bene, la verità, funziona bene. E poi lo stesso discorso vale quando c'è umido o quando c'è troppo secco, se vedo che è abbondante o se c'è umido, se ad esempio cuciniamo dei pesci, tu non mi puoi ritirare l'umido dopo 3-4 giorni, me lo devo ritirare subito, al massimo l'indomani, perché quando io butto i pesci o qualsiasi cosa che puzza da un momento all'altro, da un giorno all'altro, non le posso tenere la puzza a casa, allora cosa faccio? La mattina provo a uscire, controllo, guardo se ci sono, se c'è umido abbastanza, la prendo, lo ritiro e me lo porto a tasca gli anni, faccio così. Vai Flavio. Sì, ma è così, no, non c'è nessun problema. Così, no, io ho due contenitori praticamente, ho due contenitori che mi ha dato un amico, li uso per separare, uno a una parte e uno all'altra, tutto lì. Sì, Gianni, sì, uno da una parte e uno dall'altra, ne avrei. Non li tenevo tutte e due a posto, va bene. Quindi Marco è andato via, Antonio vuole riprendere o si è ancora incazzato? Ah, parte tutto dal Vacconi, già c'è Andrea che raccoglie tutto, cosa di natura. Antonio, adesso la bombetta, non ti buttare su qui. E io infatti alla fine ho fatto tutto dal Vacconi, vedi che ribassiamo a chi. Qualcuno ha usato anche quel sistema qualche volta, che ti pulsi, fa che dai. Gianni, come facevano per la mano una volta a Napoli, che buttavano tutto alla finestra, fa che dai, vabbè, anche lì adesso sicuramente è cambiato, dai, si saranno civilizzati anche lì. Gianni? A Napoli, adesso stai invece uno, da Roma, la popola della Roma. Oia, dimmi. Sul 20 se mi ha chiamato quello che mi hai detto tu. Sì, quella cosa, capito? E mi ha dato controllo. Cazzo, il 20 arriva qua. Solo il 20, guarda. Anzi, a più proprio della cosa. Solo il 25 proprio. Allucinato davanti là. Funziona veramente bene. Giusto, sto andato ieri controllo, ma stai scherzando? Te l'ho capito quando stavi, ho sentito lo stacco della radio, l'ho capito. Però esce, arriva molto bene, adesso prima non arrivava per niente, adesso arriva bene. Ok, va bene. Avanti Giulio, riprendi. Ok. Sì, Antonio, di quale apparecchio stavi parlando, Antonio? Apparecchio di cosa? Di Marino, che ieri sera ha sistemato l'antenna. Adesso esce forte, c'era tutta l'antenna, tutta tanta verniciata in acqui, ho capito che non funzionava nulla. Ho preso la mola, ieri, 10 minuti una passata, adesso è a posto. È perfetta. Io ho trovato la via sul originale, c'è subito a quello che c'è Roberto Pinnani, alla Firenze 2 Explorer in pratica, che ti parlo di 7-8 anni fa, che li buttata lì, sopra il tetto di Roberto. Se non dovete mettere, ci sali su e te la porti via, vai e dici tu. Se ci vuoi la scala, mi porta più la scala e ho detto che ti ha staccato l'antenna, gli ho detto. Stavo dicendo, tu che antenna usi? Ma una manta ma tu ce l'hai, non ce l'hai la manta ma tu? Sì, non l'ho amato la turbo io, già la lì. Prima ho avuto la 5, prima ho avuto la 1, poi ho avuto la 5, poi avevo avuto la, poi avevo preso la energy, da 11 sono passato pure alla turbo, sono passato. Capito come antenna, perché la cosa l'abbiamo sentita, cioè in pratica la energy si è incasinata, allora l'avevo attaccata e sistemata e l'avevo regalata sulla alberghiera, a Mario eccezionale. Io non l'ho comprato da turbo, tutto lì. E tutto ciò ho trovato da turbo, va bene, non fa TV, non fa niente, è a posto. Finché dura, quando non c'è più niente da fare, se c'è il trasonetto, mi sarà tolto in culo, perché già lo sai, questo tipo di antenne, una volta che si usino, si fanno tutto un blocco, si fanno, capito? Non è la mantova di una volta, per dire, è quel tipo di mantova che c'ha gli spessori all'interno, che tu ci pigli lo stile, capito? e quindi viene malato ieri. Lo so, perché il trucco c'è, ma bisogna conoscerlo per toglierlo. Prendi un cannello e lo scaldi, dunque si dilata e si stacca tranquillamente. Certo. E tu Gianni, cosa hai intenzione di fare con l'antenna? Mi hai detto che c'erano caduti alcuni radiali. No, oh, io la lascio così, dunque aspetta il telefono. Ok. Così, lo so, purtroppo le antenne a volte creano problemi, ma io l'ho tolta e adesso continuo con questo filo e non se ne parla più. Poi in estate vedrò se rimetterla nel posto alto, dove appunto c'era prima la mantova, però l'antenna è svoltata. Lo stilo no, lo stilo centrale è intero, sto sdraiato per terra sul lavatoio, sul poggiolo della passata, tanto è lungo, è 8,50 m, l'antenna è 7 metri circa, si sta benissimo. C'è già un anno e mezzo e oltre, è così, per terra. Ma anche l'altro giorno l'ho guardato, mi sono affacciato al terrazzo e ho visto che è perfetta, è nuovo, sempre lo stilo. Avevo pensato, ma forse sarà tutto quanto ossidato, invece no, è abbastanza pulito. Non ci sono problemi. L'acqua la prende lo stesso, il sole lo prende lo stesso. Pensa che c'è ancora il funghetto, Antonio, quel funghetto di plastica ancora ci ha attaccato e dunque non si è nemmeno rovinato questo. Che prendi, Antonio? Guarda, se avete trovato la finestra 2, se qualcuno della matova ci avrebbe buttato la finestra. Era l'unico tipo di antenna che aveva l'alluminio che era bello, bello grosso. Con la vite di quelle con la chiavetta L, stringivi e mettevi un pochino di grasso, anche il grasso di coso per il filo di freno. E quando lo attaccavi come se fosse il primo giorno, tale uguale, che tu la installavi, rimaneva sempre nuova e poi non succedeva nulla. Poi ci sono questo tipo di antenne che stanno costruendo con questa specie di cose in plastica che si vede la carica e secondo me non mi piacciono per niente, hai capito? Sarebbe stata bella se l'avevano fatto diversamente, hai capito? Cioè in pratica il limite è l'unica cosa che non sapevo togliere quella specie di campana in plastica dove si pone la carica, metterli in acqua vulcanizzante con la vaselina all'interno e poi metterci quello. L'unica cosa che volevo vedere l'antenna e poi la base pulirla bene, anzi qualsiasi di quella che è in ferro metterla in acciaio, che sarebbe stata una cosa ultima, in modo che non si sarebbe mai ossidata con quei pezzi cromati che ci sono per i radiali. E tu avresti avuto l'antenna che ti dura minimo 30 anni, hai capito? La matova a tubo, se tu gli cambi la base di sotto, la potresti essere in ferro, gliela metti in acciaio, con l'alluminio, non si spaccano mai i radiali, rimangono sempre liberi, tranquilli, fermi, non si muovono più. Il fatto che dovete prendere una pentola, fargli la forma e fargli la tua, il discorso è quello, sarebbe un bel casino, capito? Purtroppo la vedevo così, non la vuoi fare. La matova tubo c'ha quel difetto, la matova invece 5, una volta che si usano i radiali non riesci più ad attaccarli, perché non ci conectano a pezzi e quindi siamo sempre lì, hai capito? Ok, Antonio, lo so, purtroppo è così. No, il piattello ancora il mio già è abbastanza pulito, nuovo ancora, perché non si era rigenito, perché è zingato, il materiale è zingato, e ho visto che io l'ho tenuta alcuni anni piazzata, eppure ho visto che non si era rigenito. Pensavo che si arrugginisse, ripeto, a me il difetto che mi ha fatto sempre quella questione che io ho spiegato più volte, è il fattore elettrico. Però funzionava bene. La mantova a me mi ha dato sensazioni, funzionava bene. Solo che non lo sopportavo, intanto per il vento, perché la notte quando c'è vento, per carità, quando c'è vento forte chiaramente, c'era un fischio continuo, sembrava il treno. di Cagliari, che fischiava la stessa vicino a Cagliari, per carità, quello no. E poi il fatto che non era più posticipità, ma per quanto alla costruzione meccanica era, per me è bellissima, va benissimo. Va bene, va bene. Avanti Gianni, ancora al telefono, avanti Claudio. Va bene, va bene. No, ma guarda, quelle antenne antenne funzionano bene, io l'ho avuto la mantovatura, questa è stata la mia decisione perché avevo trovato la Mantova 1 in offerta a Manto, ma me l'aveva portata Mario Bonattale e avevo rimontato la Mantova 1, se no andava benissimo, capito? Avevo anche il radiale di scorta, però quel coso, quel problema che ha fatto a te Giulio ad esempio a me non me l'ha fatto. Io l'ho tolta, ho conservato i radiali, il piantone, non mi ricordo, comunque tutti gli elementi poi li avevate a Fabrizio, aveva fatto un'antenna verticale, ultimamente, capito? Però non mi posso lamentare, funzionava bene. È chiaro che la Mantova 1 è la Mantova 1, però non avevate di più. È quello, il problema è quello qua, infatti io quando ho comprato la Mantova Turbo, per questo l'altro ho pagato 145 euro, ho pagata, ero in Bongo, l'avevo chiesta da Torino, me l'hanno mandato, e avevo chiesto a Mezza Italia se c'era la 5 o la 1, nessuno ne aveva, no, dice tutti quanti mi dicevano la Turbo, poi alla fine mi sono deciso, ho dovuto comprare per forza la Turbo, tanto non ero riuscito a trovare da nessun negozio, ho fatto una quindicina di telefonate, nessuno ne aveva, no, dice la Turbo, possiamo mandare dalla Turbo, no, poi alla fine mi sono fermato, l'ho chiesto da Torino, anzi sta presa a testa la Cologno Monzese, boh, non so, non mi ricordo questa testa come si chiama, insomma provincia di Torino, e dunque me l'hanno mandata nel giro di 4-5 giorni me l'hanno mandata. Me l'hanno mandata anche a contrassegno, me l'hanno mandata e ho parlato al momento del ritiro. L'ho piazzata e andava bene, però poi ripeto che ha fatto era sempre quello del fatto del cortocircuito che non c'era più. Ma lei c'era. Avanti Antonio. Ciao, non facciamo andare, c'è andato. Gianni è dentro il filo. Bravo, dai. Sono già le 7:18 minuti. Quanti ore ci siamo già qua? Ci siamo esattamente 3 ore noi in frequenza, dalle 4:20 una cosa così, praticamente siamo alle 7:23 in questo momento. Alle 7:19, non le 23, 7:19, per cui siamo 3 ore al baracchino qua. Invece abbiamo passato la sera, abbiamo parlato un po' di tante cose, di sport, attualità, armi, leggi, insomma, e questo oggi l'abbiamo fatto, adesso aspetta ancora un pochino, poi ci ritiriamo, mi sistemo il cane, prepariamo la cena, poi ci guardiamo questa partita, vediamo che cosa, se è una cosa bella, perché se mi stufa fortemente l'Accademia, ciambo, io col Napoli l'ultimo pezzo non l'ho visto, perché mi stava facendo troppo incazzare, avevo cambiato, e così stasera mi c'è iniziato un bel film, una serie lì con Ambrangiolini, vedi? Vedi l'allenatore è vera compagna, con Ambrangiolini, è diventata anche una brava attrice, cosa, c'è un altro bravo, una serie, il coso del lago, il segreto dell'acqua, mi sembra una cosa del genere. Quindi se mi tuffo, giambo e mi guardo il film, mi giù. Ah beh certo, tanto per essere di malumore, tra virgolette, per la Juve, Fadenza, tanto ormai, il campionato è vinto, tanto non usa la parte, non se ne frega più di tanto. Però è sempre una soddisfazione se riuscisse ad appunto vincere anche lui, perché no. Mi sembra che sono già, questa è la 20-27esima partita, sì, la 27esima partita, dunque ne hanno giocato 26, di cui 23 vinte e 3 pareggiati. E ancora, grazie a Dio, senza sconfitte. Speriamo bene, eh? Speriamo bene anche oggi con un po' di riserve. Speriamo che faccia giocare anche fino a Tola, invece non so se fino a Tola c'è o qua. Non credono giù, perlomeno la formazione che ha dato lui, anche se ha detto che sono tutti a disposizione, c'è in difesa, c'è Rugani e Cáceres, a meno che non decida all'ultimo momento di mettere la Spinazzola. Perché a quanto ho sentito Alessandro gioca alto, gioca per dare man forte magari l'attacco con i suoi traversoni eccetera, e dunque a questo punto non so come difensore di fascia, vabbè, chi può mettere? Se c'è Alessandro, vabbè, gioca lui, ma potrebbe giocare anche Spinazzola, magari alto, ma mi sembra che avevo sentito qualche giorno fa che avrebbe messo Alessandro, forse come esperimento, che ne so, alto, come fluidificante di fascia, magari in basso, allora a questo punto che mette come difensore, solo Spinazzola potrebbe giocare, perché Cáceres se gioca centrale, Rugani, non lo so, anche lui farà il terzino, boh, non lo so. Lo già abbiamo, è sempre l'ultimo momento che ti alleghi, chi se mi fate incazzare? La gamba la fattisci fuori di campo, con la ragazza la fattisci fuori di campo, ad alleghi. Guarda che bella, o ci guardiamo a lei o ci guardiamo a sempre in famiglia sempre. Ma sto giù, beh, non c'è stata, ma una scimmia che... Lo so, allora, non mi ricordo quando era ragazzina, vabbè, che le suggeriva quando gli facevo la presentatrice, quella trasmissione di ragazze, di giovani, che non mi ricordo come era il titolo di quella crepa lì, e c'era un buon compagno che gli suggeriva qualcosa al microfono, come cosa doveva fare, cosa doveva dire, e poi nonostante tutto poi ha fatto successo, è diventata anche attrice del cinema, visto? E vabbè, fortuna per me. Brava, non è il primo che fa il film, no? Lo so, vabbè, comunque. Il mio grande fratello, Roby, vabbè, ma quello se lo guarda mia moglie e mia figlia, guardano il grande fratello, Maria De Filippi, e guardano, l'altra, come si chiama, quella della sera, non me la metto, quella donna che va 60 anni oltre, che si crede ancora una ragazzina, oppure si guarda uomini e donne, sempre a far rendere, io ho sempre violetto a mia moglie, Canale 5 è la vergogna della televisione italiana, con tutte queste bisticci che fanno sia i giovani che gli anziani, tutte quelle cagne di 70 anni che vanno lì a cercare i ragazzini, o viceversa quei maiali degli uomini vecchi che vanno a cercare le ragazze, ma dimmi tu, in televisione, non è possibile. Ci tende a cosa? Vabbè, Maria Filippi, Barbara Russo, ormai sono i padroni di Canale 5, c'è poco da discutere. E anche qua la stessa cosa, io mi ho messo un 32 pollici qua in cameretta per le radio, attaccato a parete per potermi un po' staccare, perché sennò sono succube di questi programmi, capite? Infatti dopo mi sposto la scheda qua e me la fai di no. Vabbè. Antone, caggiuto ti sei in mezzo alla mondezza. Gianni, il filo interrotto te l'hanno il telefono. Cosa? No, ma Gianni, stavo dicendo, se gli hanno interrotto il filo del telefono, e a quanto sembra non c'è. Gianni, andiamo al telefono, mi negare le cose. Vabbè, comunque. Abbiamo iniziato noi due e siamo rimasti noi due soli, a quanto sembra. Vediamo se è già uscito Marco. Marco, ci sei ancora o sei già uscito? Marco c'era già in giro, poi con Iva. Con Iva, è uscito col figlio di Giuseppe, per la tre, sono amici. Iva, se non sei al pronto ti lascio a piedi. Così è. hanno tutta ragione quello. E proprio, alla prima è, vabbè, vabbè, va bene anche così, e perché no, ci mancherebbe. Cosa dire? Allora, dimmi una cosa, Filippo, ma stai ringraziando, sa com'è, ho rimasto sempre uguale, come l'avevo visto io l'ultima volta. Ma Filippo intorno sempre 26-28, anzi di nuovo 28-7, 28-8, non deve arrivare a 30 kg, se no l'estate è un problema, Giulio, perché si affatica molto, capito? Si affatica molto, allora lo teniamo sempre molto molto a regime, anche se lui ha sempre fame, però comando io, prima faceva due parti, adesso ne sta facendo uno, perché l'ultima visita che aveva fatto il veterinario mi aveva detto che era un po' troppo pesante per il tipo di cane che è, la presa è agile, è bello, tranquillo, deve rimanere intorno ai 26-28, adesso di nuovo 28-27-8, non ci arriva a 28, però già è sempre uguale. Sempre dormito, mia moglie dormito di là, aspetta a me, quando lui si alza vuol dire che è ora di portarlo, quindi 8 meno 4, 8 meno 10, capito? Ok, insomma, lui conosce l'orario ormai, e beh, purtroppo il fisico gli richiede quell'orario e lui quando sente la necessità allora si alza per far capire che deve uscire, ma è così, è come le persone, no? A un certo momento, quando noi sentiamo lo stimolo dobbiamo andare, no? Dobbiamo, ci mancherebbe ogni 3-4 ore, la regola perlomeno è quella, quando è normale, poi naturalmente se c'è qualche problema uno può andare più spesso anche, ma io avevo letto anche da poco, e poi me l'aveva detto anche il dottore, la media è ogni 3-4 ore, la media regolare, diciamo. Poi quando ci sono problemi, allora è diverso il discorso. Sì, sì, vabbè, comunque succede anche ai bambini, uno di questi è mio nipote, ad esempio, mio nipote, un mio nipote da lontano, là, 11 anni, stava sempre bevendo e ogni tanto andava in bagno. Capita? L'hanno fatto controllare, se ne era accorto il nonno, ma come mai fai così tu? L'ha detto la madre, porta il bambino a controllare, l'hanno portato, 11 anni appena, l'hanno contratto e ha diabete, come mai? Mamma mia, malattia allegra, mio fratello 16 anni aveva, ne ha 60, fratello aveva 16 anni. Se lo sta portando avanti, anche se grazie a Dio non ha mai avuto grandi problemi, però rimane sempre bello magro, non è che assimila molto, certe cose non le può più fare, e vabbè, brutta malattia sto diabete, mamma mia, no, io già faccio sempre gli esami, tutto, fino adesso è tutto a posto, poi ci vedrà. È una vita di restrizioni, perché quando uno si prende una malattia del genere deve stare sempre allerta, regolarsi con la nutrizione e soprattutto con le calorie, eccetera, eccetera. Purtroppo è così, chi è fortunato nella vita le succede anche quello, chi è fortunato. Ma io quello che non riesco capire io con tanti anni di studi che fanno anche per queste cose qua, adesso vabbè lasciamo stare la malattia del secolo, quella è molto difficile eccetera, ma anche il diabete non scherza, perché è una cosa che esiste da anni, da sempre praticamente, e li avranno fatto pure delle ricerche e non sono riuscite mai a trovare la soluzione giusta proprio per guarire definitivamente da questo disturbo. Purtroppo è così, speriamo bene almeno nel futuro. Infatti speriamo bene, se no cosa vuoi ti dica, sempre io tu comandami, Giulio, non hai capito, sempre lui comanda, quindi io per il momento non posso lamentare, poi se lui decide che deve cambiare cambiare qualcosa, che decida, forse a Edo, sì o no che gioco. Ah beh, quello sì, si chiama quello. Si è fatta la volontà di chi appunto ci guida e di chi ci, e di chi ci assiste. Sempre che assistiti lo siamo, boh, non lo so, ma speriamo di sì, che siamo magari assistiti dalla fortuna, di più che meno. Se non si aiuta Dio, mi aiuto io, ma io posso fare poco però, in certi casi, è vero, claro. Già puoi fare, già puoi fare, noi druccioli vorremmo fare, segatura. Infatti, noi possiamo fare poco veramente, io che curare di fortunato della vita, per carità. Io cerco le volte quando sono, anche la volta le volte quando dormo un po' tardi e penso a certe persone, alla tragedia della vita e anche alle difficoltà che trovano nel vivere, da raccrestarsi proprio. E non lo fai perché ormai siamo abituati a queste cose, li sentiamo tutti i momenti, non tutti i giorni, tutti i momenti. Però mettendosi nei panni di certe persone, anche di quelle persone del terzo mondo, poverini, quelli che quando li vediamo in televisione fanno pena vedere questi bambini che sono pelle e ossa e che muoiono all'età di 3, 4, 5 anni di fame addirittura, quando me la fastidio, ragazzi. Con tutti i miliardari che ci sono nel mondo, io buttando soldi a non finire, li prendi. L'altro giorno c'era un programma, poverini, vicino a Sudafrica, questo campo, questa cosa, tutto di baracche, un pingo, non venire a dirlo questi bambini che lì si contavano le costole, una cosa, guarda, straziante, una cosa veramente, siccome lì c'è un italiano medico, stava raccontando appunto che con grande difficoltà, con aiuti umanitari, ma sono pochi, sono molto pochi per poter curare questi bambini, vanno in rugolera, vanno un sacco di malattie. Una cosa allucinante, veramente straziante, questi bambini anche bellini, questi negrettini, queste cose, ma li imboccavano con queste pappette, con queste cose, ma come ti ci può vivere così, e noi siamo bisogni a pagare un calciatore 30 milioni di euro al mese. È una vergogna veramente, è veramente una vergogna, come si fa? Come si può fare? Questo non riesco a concepire. Però anche i loro governanti di questi paesi così, dove stanno morendo di fame, anche loro sono degli ebrei veramente, ragazzi, nel vero senso della parola. Gente, ragazzi, che a casa loro ha i rubinetti in oro e anche la tavoletta del water dove si siedono in oro. E la loro gente mangiando, seduti per terra con le mani che non hanno nemmeno le posate, oltre a non avere roba da mangiare, a cosa ne servono le posate? Anche quello è vero, sarebbe un'osservazione giusta, ma per dire che non hanno acqua, non hanno niente, povera gente, come fanno? Sto dicendo, a me mi fanno una pena quando mi vedo in televisione, tu non mi crederai, te lo giuro, io quando vedo certe cose non resisto e cambio canale, tutto perché mi fa male vedere la sofferenza umana a quei viveri, non è possibile, ragazzi, non è possibile, è come essere malati, anzi lo sono malati, perché quelli sono malati di fame, anche se magari non hanno niente di che gli occupa la salute, ma quella è una grande malattia, la fame, ma veramente grande, una vergogna. Adesso ti sto dicendo che è una cosa da paura, i bambini bambini che praticamente vanno per poter aiutare i genitori, quelli più grandetti, nelle discariche, a cercare roba che possono riciclare, roba che possono vendere, roba che possono anche mangiare. Vanno ai mercati, ai grandi mercati, capito? In altri paesi che sono un po' più emancipati, vanno nei mercati, aspettano che il mercato chiuda per poter far pulizia della roba che loro buttano per portare a casa. E noi, magari dei calciatori, fior di quattrini, gente che gira i Ferrari, magari non va manco uscito in busciata, per carità. Però il mondo è così, questo è un bravissimo medico che addirittura ha allestito un campo dove c'è anche altri italiani che le danno una mano, ha dichiarato che grazie proprio all'Italia arrivano tanti sussidi, tante cose, anche medicinali, anche da poco tantissime farmacie italiane hanno fatto l'inventario di medicinali che possono essere utili, magari già in scadenza, cose che devono consumare subito, capito? Quindi sono state mandate tutte lì in questo villaggio per poter curare questi bambini che sono veramente, veramente tanti e messi male. Sì, fanno pena, venivi a cercare in mezzo alla mondezza qualcosa da mettere sotto i denti, non è possibile, è una vergogna. Va bene che anche qui in Italia certe cose si vedono, di tanto in tanto, vediamo i barbuni, vediamo andare a cercare dentro i cassonetti della mondezza, e certi barbuni, soprattutto quelli in prossimità dei ristoranti, eccetera, sanno che all'ora della chiusura buttano del mangiare che purtroppo hanno proibito di dare ai poveri, non glielo possono dare, e allora lo buttano dentro il cassone della mondezza, e certa gente va a cercare dentro i cassoni per recuperare qualcosa da mangiare. Poi naturalmente ci sono quelle persone che sono anche stupide, perché l'altro giorno c'era una barbona, una donna, che rubava nei supermercati, nei negozi, andava a rubare, magari roba da mangiare, lo stesso, però gli hanno trovato 12.000 euro e poi gli hanno controllato che in banca aveva 400.000 euro una barbona, e tu fai una vita del genere con tutti quei soldi in banca. E io ho pensato, tra me, chi sarà più di me? Se questa 400.000 euro in banca ne ha più di me di sicuro. Per dire, no? E non riusciva a comprarsi da mangiare, o meglio non se lo voleva comprare, per dire, no? Come la gente alle volte. Ne sono scelte, vedi. Ho fatto anche un film, non mi ricordo chi era, due attori che adesso sono morti, mi pare. Uno era un attore inglese, l'altro era un attore francese, mi ricordo. E avevano proprio fatto un film. Cioè, ricchi tutti e due, però avevano scelto di diventare poveri. Nel senso, una decisione loro, non perché non ne avessero, ma proprio perché non volevano spendere, volevano vivere da poveri. E magari anche questa, capito? Magari anche questa, sempre messo da parte. Una che ha sempre avuto soldi, che però lasciata sola, abbandonata, ha deciso di fare la barbona. Senza regalo da nessuno, magari chissà che fanno quei quattrini. Infatti, è quello, il punto è quello. Ma come fa, quando io mi chiedo, come fa una persona a soffrire in questo modo? Per quale motivo? Scelta o non scelta? Però stai soffrendo in una maniera impressionante, perché si è aperto, non hai una casa, è al freddo, al caldo, tutto pieno di bingo, tutto sporco, senza mangiare. Ma non è possibile. Almeno se non altro vestiti, pulisciti, prenditi una casa e vivi anche facendo una vita da barbone, però falla bene, falla in maniera discreta, non andare a coricarti e coprirti per sotto con una scatola di cartone. Cose assurde, ragazzi, io certe mentalità non le capisco, un po' posso capire che possa essere una scelta, spero che sia una scelta da essere, da scendere così in basso mi sembra assurdo. Una scelta uno ce la fa, la dovrebbe fare anche cercando di vivere bene, ma questi vivono male, perché lo vediamo come vivono. E sono in balia di certi ragazzacci che poi li vanno lì e gli fanno anche la pipì addosso mentre sono addormentati. Ma quando mai? Ma come fa una persona a fare una scelta del genere, mi chiedo io? Giù, purtroppo ci sono, ho fatto vedere anche la Iene da poco. Purtroppo ci sono perché non si riesce a capire qual è la loro decisione, da dove è scaturita questa decisione così brutta, perché la decisione è brutta, però ci sono queste persone che decidono così e sono persone ferite, sono persone che hanno avuto magari un'infanzia brutta, poi una bella vita e poi alla fine abbandonati per chissà per che cosa, capito? Sono persone deluse che decidono di fare i marmoni anche consapevoli di star bene, cioè pur potendo star bene, però sono delle scelte che in Italia ce ne sono tanti, perché anche ultimamente, ti ripeto, lo guardo le Iene fanno dei servizi allucinanti, dove fanno vedere cose pazzesche, eppure ci sono, e non è la prima volta che, come dici tu, hanno fatto un servizio dove questo praticamente viveva nei portici, sotto i ponti, e poi ha dormito in macchina. Sì, non era molto pinghioso, però faceva una vita da povero. E lui ha dichiarato alle Iene che lui non è povero, ha scelto di fare il povero, ma non è povero, è abbastanza benestante. Però ha avuto una grandissima delusione in famiglia e ha deciso di fare il barbone, di andare via di casa e vivere così, capito? Sì, questo sì, d'accordo, io capisco che uno possa fare una vita da povero, però non ti puoi abbruttire con una vita così proprio. Tu a Milano, io ho visto a Milano tanta gente, e questi barboni la notte vanno lì alla stazione, buttati per terra, tutti in mezzo alla pipì, dove che loro stessi poi la fanno lì stesso, a quel cazzo la notte, passano la notte lì, sulle panchine, ma non mai, dopo, io non riesco a capire, se non vedo non riesco a capire, per me è una patologia, è fatta, cioè queste persone sono uscite fuori di testa e hanno deciso di fare una vita del genere. Vuoi fare il povero? Fallo il povero del povero, niente da dire, non ti comprare una macchina di lusso, non ti comprare gli abiti firmati, però se non altro, non so se tu l'hai mai visto quello stato lì, tutto stracciato, con i pantaloni, tutto quanto che ci mancano, questi lunghi 30-40 cm dai pantaloni, dalle gambe, tutto aperto, e ha un giaccone che ha un freddo che prendi, tutto quanto tagliato, stracciato, non riesco a capire, eppure mi hanno detto che quello lì è uno che sta bene, perlomeno una famiglia di quello, sta bene, e tu lo vedi in giro, magari non l'ho mai visto chiedendo le musiche, non ho mai visto chiedendo le musiche, vai in giro con un bastone, si prende il treno, si prende, ma è brutto vedere una persona vicino a te per dire, o a me o a qualsiasi altra persona, e vedere una persona del genere, cosa penso, cosa posso pensare? Non so se posso pensare che mi fai schifo, o che sei scemo, non lo so, che sei povero, non lo so a questo punto cosa pensare, perché non ti ho mai visto chiedendo delle musiche, per dire, no? Mi spiego qua cosa intendo dire. Già. Giulio, ti ho detto, sono decisioni, ma ce l'abbiamo a Sassari il conosciutissimo Belli Cappelli, così chiamato, all'era che aveva i capelli che usava da cuscino, che stava per tutti gli angoli domandando di là e cose, adesso non lo fa più. Anche quelle sono delusioni familiari, raccontato a me personalmente, dove lui ha deciso di staccarsi dalla famiglia, di dormire nel garage, il padre è commercialista, capito? Cioè non è di famiglia di barboni, il padre è commercialista, abita a Lunesole, è una bellissima casa, eppure sono delle scelte che si fanno. È chiaro che bisogna entrare nella mente di queste persone, perché molti non sono come pensiamo noi, decidono di fare quella vita per delusioni familiari o per problemi mentali che magari si sono create o che hanno, ma no, alla fine ce ne sono tanti che non sono così barboni, sono anche benestanti, però hanno deciso di fare quella vita. Vai Gianni. Io ho una lecuce che non credevo più, cioè perché fatoli abbastanza c'era da sedere, stava a partire avanti nuda e si trascinava questo pantalone con tanto quanto, e sai quando ti scendi in barca la stessa cosa, ci davano i piedi, i pantaloni e camminava piano piano strisciando i piedi. Quando mai non vedo una persona del genere aiutata, quando mi ha fatto così male, guarda, non credevo più. Già, parlavo con Giulio Poccazzi, io qua in questo quartiere è successo una volta che c'era una persona che appunto aveva con grosse difficoltà, perché a volte l'abbiamo trovato anche all'interno del nostro condomino, coricato sotto un albero, fortunatamente restato. Mi sono avvicinato, ho detto chi era, dove abitava, eccetera, se mi sono informato, ci siamo informati tutti i condomini. E praticamente abbiamo subito avvisato Don Mario, adesso non c'è più Don Mario Cimo, adesso c'è Don Marco, qua alla chiesa nostra del quartiere. E subito è intervenuto Don Mario, subito sono intervenuti i servizi sociali. Abbiamo recuperato come se fosse una persona conosciuta da tempo. E messo a posto, adesso sta dalle suore, abita dalle suore, sempre bello pulito, ordinato. Io una volta sono andato a trovarlo con un paio di miei condomini, ma è raccontato proprio al prete, perché a noi ci ha detto ben poco, ma ha raccontato al prete che praticamente l'avevano buttato fuori i figli, una persona grande della nostra età, Gianni, quasi sessantenne, capito? L'avevano buttato fuori i figli, che ne avevano mangiato tutto, lui lavorava, era un piccolo imprenditore, ha sempre lavorato. Dal momento in cui il lavoro è calato e lui non faceva vivere i figli come loro volevano, gli hanno dato un calcio nel culo, capito? L'hanno buttato fuori. E lui purtroppo, non sapendo dove andare, ha deciso di fare il barbone. E fortunatamente era qua nel nostro condomino, noi ci siamo tutti addirittura quotati per sistemarlo, per metterlo in una casa di riposo, ma lui assolutamente non voleva andare in una casa di riposo. Però ha accettato questa nostra mano, noi l'abbiamo data, e con la Chiesa è riuscito ad avere un fatto caldo tutti i giorni, un sempre ben vestito, pulito, ordinato, però non ha niente. Come tu ben sai, è successo al nostro carissimo amico, non lo posso dire in radio, ma sai che parlava, rideva tantissimo con noi, è successa la stessa cosa più o meno, capito già di chi sto parlando? Sì, sì. Ma io l'avevo trovato a fare un controllo, stava a Roma in un uomo, non è proprio meno riconosciuto, non c'era fatto la nostra cultura, ma poi ho capito di cucchiaio. Esatto, e se tu lo vedi oggi non lo riconosci, anche lui è in un coso di suore, mangia lì, dorme lì, c'è il suo alloggio, cioè sono quelle persone che purtroppo cadono in disgrazia per una minima cosa. Ma tu immaginati, c'è un figlio che butta fuori un padre così con un calcio nel sedere e dice vai, io escimi a mettere bene, vai a fare un barbone. Sono cose bruttissime da sentire, da vedere, da fare, c'è una cosa inconcepibile, non si può fare una cosa del genere a uno che ti ha fatto grande, capisci? Tante di queste persone, come diceva Giulio, sono cadute in quel sistema, proprio per problemi familiari anche di questo genere. Vai Giulio. Sì, beh, indubbiamente è così, sono situazioni che, ripeto, uno dal di fuori non può capire, però uno si può dire, si può per interrogare e pensare, ma come mai questo qui fa questa vita così, nonostante che ha le possibilità per fare una vita decente, non lo so, ma perché stavo dicendo, Boccardi, Gianni, non so se hai ascoltato, una barbona rubata nei supermercati, quando l'hanno trovata la polizia, perché l'hanno fermata che aveva rubato, aveva 12.000 euro in tasca, aveva, e poi aveva 400.000 euro in banca, si può immaginare, per dire, e lei faceva la barbona, faceva. Ecco, come fa una persona a ridursi in queste condizioni? Per me è una patologia, sicuramente, Gianni. Io sono d'accordo con secondo lui, su di celia bisogna che si risfrutti, perché tanto tu si rimane anidare. Quindi non avrei mai fatto una vita, però sono scelte di vita che magari non fa, che non si sente magari ai soldi, però non ha la felicità, non si sente... Non si sente realizzato quello che voleva, capito? E purtroppo ci sono delle persone che fanno queste cose. Io mi ricordo un altro che dormiva proprio soccorso e ero civile lo stesso. Purtroppo ha avuto una storia che l'hanno buttata fuori di casa e un giorno sono andato a proprio soccorso, l'ho trovato addormentato, l'ho chiamato. E ho detto, ma ci sta qua, stava caricando il cellulare per la presa che ci ha portato soccorso, dove ci aspetta, la sala aspetta. E c'era, perché era l'unico posto al caldo che poteva stare, era l'interno inverno. E lui ha detto, l'unico posto al caldo che posso stare, la raccolta tutta la storia, e tira a ballare. E purtroppo qui, vabbè, si è rimesso a posto, ho fatto l'altra donna, ma adesso è... Lo so, purtroppo ci sono anche queste persone. Ma cosa vuoi dire in italiano? Una volta mi sono trovato in banca, e c'era quest'uomo al sportello e io ero di fianco. A un certo momento se ne chiude il fazzoletto alla tasca, apre il fazzoletto e dentro c'era un orologio, senza cinghietta, senza niente, tu dovevi vedere, questo fazzoletto intanto era più nero del carbone di quanto era sporco, questo orologio era vecchio, vecchissimo, ma brutto veramente, è proprio di quelli di 200 anni fa, proprio senza cinghietta, senza niente, e lui era vestito malissimo lo stesso, ma male, proprio da straccione. Gianni stava mettendo in banca, o meglio si stava trasferendo in banca 50.000 euro, si stava trasferendo, per dirti no, ci sono queste persone che hanno questa mentalità, nonostante le possibilità economiche siano buone, eppure vivono in questa maniera qua, cosa vuol dire? Magari questo è un uomo che ha lavorato una vita, ha sofferto, se non quello che vuoi, ha racimolato un bel po' di soldi e poi li mette in banca per chi poi? Per chi? Chissà, magari c'è anche parenti questo uomo, probabilmente ce li avrà e gli altri se li mangiano, ha una bella faccia sua, poi gli altri ne godono, ecco come la studia. Vai qua! È proprio vero, l'abito non fa il monaco, è la parola esatta, ma ce ne sono tanti di questi, ce ne sono tanti. Guarda, io ho una persona che conosco naturalmente, non è un conoscente grande, lui, se tu lo puoi vedere, però te lo dico io, lui praticamente si cambia solo le mutande, ok? Per il resto ha sempre un paio di jeans, le stesse scarpe, lo stesso giubbottino, la stessa camicia da vent'anni, la lava, la stira e se la rimette quando è sporca, sempre così. E ha tanti di quei quattrini, ma tanti di quei quattrini, che non viene bene a contarli. E non ha figli, stai attento, non ha figli, è vedovo, e ha tanti di quei quattrini che non viene bene a contarli. Ma truico con certezza, truico con certezza. E lui non si compra un giubbotto, un paio di scarpe, niente. Le scarpe le ha fatte risuolare da un gattolaggio 3 volte. Pulito, ma siccome lo vedi magari una volta, e non te era così. Lo vedo spesso perché abita vicino a me, ok, non a fianco di porta, ma nello stesso condomino. A tanti è un pensionato, aveva anche un ruolo abbastanza importante. A tanti di quei quattrini messi da parte che non viene bene a dirlo. E lui non si compra un paio di pantaloni, è sempre con la stessa, sempre vestito uguale. Lui in 20 anni, io lo conosco per 20 anni, lui ha sempre la stessa roba, pulita, ma sempre la stessa roba. Come faccia? Non lo so. Purtroppo lui va bene che almeno una volta me l'ho raccontato, e questo me l'ha raccontato un fratello di una persona. Questo qui dice, è talmente tizio che se a pranzo mangia per dire la pasta asciutta, no, tanto per fare un esempio, e ne avanza un pochino, non è che la buttano, no, la volta addirittura se la lava e magari se la fa di olio, cose dell'altro mondo, è all'anima della cosa, della avarizia, non so, non è possibile, ma poi alla pasta addirittura, ma meglio di la fredda, non è come la figura, se proprio non la vuoi buttare, ma te la lavi addirittura per poi fartela di olio. No, quello no, però io dico la verità, se a me mi ha mangiato qua non la mangio. Il ravioli domenica che mi sono ammazzato me lo mangio ogni sera, me lo spada per il forno e me lo mangiato tutta la settimana. Però io ho sempre mangiato col sugo come è fortunato non ce l'ho fatto. Beh, lo credo. Non dico, buttare non si deve buttare niente, certo, soprattutto pensando quanta gente c'è che soffre la fame. Però capita che tu puoi te la lavi, te la metti sotto il rubinetto, te la lavi quella parte, te la fai a Giulio, guarda, è da farsi veramente. Io guarda, anche da poco stiamo facendo due bistecche belle grosse e praticamente ho sbagliato, invece che per deve imparare con la sola cosa che ho detto, non ho preso il discorso perché le dico che mi credo la mano. Non è possibile, ma per dire, no, alle volte la mente della gente è questo strano veramente. È questo il giusto, sento Gabri, sento Barretti, è vero proprio. Avanti classe, a che ora era partita? Le 8:30 non ero fatto qua. No, alle 8:30 penso, praticamente alle 8:30, infatti adesso chiudo, vado a portare il cane e via. Ciao, non dovevi buttare niente, è successo anche a me, fortunatamente con lo spettatino. Capito? Che avevo detto, aggiungi il sale allo spezzatino. Non avevo ancora messo il sugo, lo stava facendo il soffritto, no, sai come si fa lo spezzatino. C'era l'aglio, la cipolla, il prezzemolo, eccetera. E a me che aveva meglio il butto lo zucchero. Fermo, mi sono preso a voce, eccetera. Fermo, non è successo niente. Adesso facciamo lo spezzatino in agrodolce. Oh, sembrava cinghiale, ma cosa qui si buona non l'avevo mangiata, mai. Ma io lo zucchero non lo posso mangiare, qua era meglio che si buttasse. Io vabbè, pazienza. Non lo andavo a contare, perché lo non si è tappato. E poi un giorno è venuto Gianfranco a Cancun, ha fatto il caffè, lo stesso sbagliato a questo punto che gli ho messo il sale, capito? Sto facendo la smuffia, ora si chiama qui, acqua, acqua, qui vedi lui ci viene la ricetta, ma non è successo, ah, ho preso il sale, siccome c'è il barattolo, che sono uguali, solo che quello di lui è più basso, e a volte è basso. Vabbè, fai due etichette perché poi io le ho fatte, i barattoli sono uguali, sai, quelli si usa sale, cose. Ho fatto due etichette, gliel'ho scritto sale, zucchero, così non ci sbagliamo più. Vabbè, ragazzi, sono le 8, dai, io vi saluto. Giulio, grazie veramente delle queste 8, stasera ci siamo bigogliati, come si dice, in tanti argomenti, in tante chiacchiere, insomma, ci è passata la serata, vabbè. Abbiamo provato qualche radiolina, sono contentissimo che questa radio, questo baracchino, funzioni, lo lasciamo attivo per fare due chiacchiere, va più che bene. Il mio carissimo amico è contento che la sua roba funziona e la tengo per bene, dai. Ciao Gianni, anche a te, grazie ai due chiacchiere, ciao Antonello se c'è ancora, se non stai caduto, non è proprio della mondezza. chiunque fosse in ascolto su 10. Io chiudo, è già tardi, il tempo mi sta già guardando e poi ci guardiamo la partita. Se coincide domani, se Dio vuole, ok? Ciao a tutti, grazie, vai Giulio. È sicuro, siamo perduti. Ok, ciao Fra, grazie a te per la chiacchierata, una bella chiacchierata lunga, quasi 4 ore, 3 ore e 3 quarti per l'esattezza, oggi. Grazie ancora, a domani, dai, se puoi ci. Sì, anch'io chiudo per così, ceno e poi ci dedichiamo alla partita, vediamo un po' cosa succede stavolta. Ciao Gianni, grazie anche a te per la chiacchierata, dai, ci sentiamo domani. Alla prossima, riprendi, ascolto fino a lì e poi chiudo. Sì, allora, ciao Giulio, ciao Claudio, ciao Cantolelli, tutti gli altri amici che te ne ascolto, dai, tu ne stiamo piattando. Ciao, a domani. Ok, ciao Antonè, ciao a domani. Ciao Antonè. E via, ciao a tutti, ci trovo domani. Io ho appena finito di cenare, quindi sono a posto. Adesso porto Babbo Show, giù a fare la pipì a cacca, così almeno tranquillo. E dopo tranquillo anch'io. A domani. Ciao Antonè, ciao. Ti salga giù dei rovinoni. Fatteli dare da quella persona là che ce li ha, a me me li ha fatti Mauretto, capito? Con le buste e tutto. Ce l'ho separate, ne poggiolo e faccio una cosa fatta bene, capito? Ciao Antonè, ci sentiamo domani, passo e chiudo. Già mi ha chiamato, già mi ha detto che già mi ha preoccupato. Stava ascoltando, mentre salutarsi. Hai capito? Quindi non c'è problema. A domani, ciao Cla. Ciao a tutti. Ciao Antonè, se stai ascoltando, già non abbiamo fatto nome, dai. Ciao carissimo, un abbraccio grande. Sei sempre un grande. Ciao Antonè. Ehi, ciao Antonè.